Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti a questa specialissima puntata di Archeologia Videoludica. Qui con me a farmi compagnia, come sempre, i miei carissimi co-hoster. Signore e signori, da Roma, Simone Pizzi. Ma che ce frega, ma che ci importa. Ciao. E sempre da Roma, Marco Gualdi, il distruggitore. Dobbiamo farla in versione funerale questa puntata. Da, un po' di allegria. Grandi, dai. E infine, dall'altra parte del mondo, Mister Luigi Marrone. Polvere, gran confusione, un grigio salone. Ciao a tutti, ciao. Ospitone importante. Siccome che Luigi ha preso il posto di Roberto, Alex ci fa l'umorismo bulgaro tutta la serata. Esatto. Infatti è già partito alla grande. No dai ragazzi, facevo soltanto la persona seria, perché oggi dal mio punto di vista è una cosa seria, è parte integrante del mio ricordo da bambino, per cui fatemi fare essere un po' solenne, come se stasera mettessi la giacca e la cravatta, anche se non mi vedono. Salutiamo Marco Paglia che già è in linea. Salutiamo Marco Paglia e tutti i nostri viewers online, ovvero sia Marco Paglia e anche Massimiliano Articoli. Articoli, esatto. O Antigoni, chi può dirlo? No, Articoli, lo so, conosco, è amico mio. Ah, vabbè, amico tuo allora. Signore e signori, a chi abbiamo l'onore di dare i nostri riferimenti geografici e geologici? Allora, posso farlo io tranquillamente, senza nessun problema. www.archeologiavideoludica.net è il nostro sito di riferimento. Archeologia Videoludica la trovate su Facebook tranquillamente, su Google Plus insieme a William Shatner. Attenzione, cioè, io ho invitato anche William Shatner stasera, esatto, questo evento, esatto. Ha detto "What a motherfucker", e poi ha detto "può darsi che partecipa", ma non ha detto è vero, perché poi dopo tra un cicchetto deve andare a registrare una puntata di Star Trek. Poi archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail di riferimento, e com'è? Archeoludo, non sai, non mi ricordo il Twitter. Archeologia Videoludo, ecco, archeologia Videoludo, dove trovate il professor Jones, chiaramente. Adesso, se Dio vuole, faccio partire la sigla della puntata. No, ve la lancio un pochettino così dopo nella quando monterò sta puntata, tutto avrà un suo senso. Bene, di cosa parliamo oggi? Il nostro argomento è un videogioco che dal mio punto di vista a me mi ha cambiato la vita, ma un pochettino l'ha cambiata al mondo dei videogiochi, che è un piccolo grande capolavoro, Elite, di David Braben e Ian Bell. Siamo soli nell'immenso vuoto. Iniziare il troppo. Che bello. Che bello. Sì, anche qui c'è cioè la bulgaricitezza, sì. Bulgarizza nostra proprio. È bellissimo, è un gioco stupendo che io ho giocato tantissimo. Mi piace perché c'era una sigletta che volevo mettere e tu hai iniziato a parlare, a farti bellamente i cazzi tuoi, ma va bene. Beh, così. Ma non la sentiamo, non lo sappiamo neanche che c'è. Quindi... Cacchio, che problema. Basta, secondo me questa è l'ultima volta che faccio, che mi presento l'idea di fare una bella diretta. Ok, cerco di tirar su le redini del nostro, di tutta questa cosa che sta andando un po' ad cozze, e vediamo un pochettino di parlare del gioco. Allora, chi si sente di introdurlo? Oppure devo fare tutto bellamente io? Introducilo tu, Alex, dai, tu lo hai giocato, quindi introducicelo. Poi parleremo del passato, del presente, del futuro, certo. Ok, allora, la cosa interessante è che se si cerca in giro la Elite, videogioco, la prima cosa che viene fuori, che Elite è un videogioco di commercio spaziale. Ora, è anche vero, però dal mio punto di vista non era proprio così. Fondamentalmente era un gioco in cui si stava nello spazio, che poi il commercio era una parte integrante e molto forte, però parlare di Elite parlando essenzialmente della sua parte commerciale è come distruggere tutta la parte di giocabilità. Allora, la storia è molto semplice: si è appena usciti dall'Accademia Stellare o quel che l'è. E per qualche motivo strano, probabilmente lo zio, ci mettono a disposizione una bellissima nave spaziale e abbiamo la possibilità di andare su questa nave e di andare in giro un po' su tutte le varie stelle. La nave spaziale ha il carburante per 7 anni luce e possiamo andare in giro fondamentalmente per tutta una galassia che, ve lo dico io, è composta da 256 stelle. La mappa della galassia è vista dall'alto ed è fondamentalmente grande come tutto il monitor. Possiamo andare ovviamente soltanto per questi 7 anni luce, per cui soltanto in alcuni pianeti o stelle che sono lì vicine a dove siamo, ci troviamo ora. Ci troviamo sempre all'interno di una base spaziale chiamata Coriolis o Coriolis, in realtà Coriolis perché questa è l'origine ed è francese, che sono in orbita e ruotano su se stesse attorno ai pianeti. Quando decidiamo di uscire da questa nave spaziale, veniamo catapultati fuori dal suo buco, un po' come in 2001 l'Odissea nello spazio, anche se non c'è tutta la parte rotonda, ma soltanto una sorta di cubotto. E a questo punto siamo liberi di andare in giro un po' dove cavolo vogliamo, spostandoci a destra e a sinistra con i cursori. Ovviamente lo spostamento non è a destra e a sinistra, dato che siamo nello spazio, siamo veramente in un motore di rendering tridimensionale, anche se poi di questo parleremo più avanti. Spostarsi a destra e a sinistra non era possibile, ci si poteva spostare, cioè cabrando e picchiando, cioè portando il muso della navetta su o portando il muso della navetta giù, e fondamentalmente rollando, cioè inclinandosi a destra e a sinistra. In questo modo, se vogliamo girare a destra, dobbiamo inclinarci prima a destra e poi andare su. Cioè non si può fare lo strafe in termini tecnici. Esatto, non si può fare lo strafe nello spazio. Una volta che abbiamo deciso di andare da qualche parte, nella parte di mappa possiamo selezionare il sistema in cui vogliamo andare, clicchiamo su questo sistema e veniamo teletrasportati proprio con modello iperspazio, con un effetto veloce direttamente in questo nuovo sistema. A questo punto il nostro scopo è quello di andare a trovare il pianeta, cioè il pianeta fondamentalmente si vede che sarà un piccolo rotondino, e andare a dirigerci verso il pianeta, e poi quando arriviamo molto vicini alla superficie del pianeta, diciamo qualche centinaio di chilometri di altezza, individuare invece la stazione spaziale, l'altra Coriolis, in modo da poterci posizionare davanti al buco e per poi entrare. Questa potrebbe... c'è sempre un buco in cui entrare, c'è sempre da mettercisi davanti, poi, quindi quella è la cosa. Abbastanza. Detta così potrebbe sembrare molto semplice. Parliamo adesso fondamentalmente dell'impatto emotivo che la grafica di questo gioco ci aveva dato, o vogliamo anche parlare ancora un po' di storia del fatto che non è stato sviluppato, No, io direi, Alex, se ritieni opportuno di parlare prima di tutto su quale piattaforma è stato sviluppato e su quali piattaforme l'hai giocato te, anche per comprendere un po' il perché stiamo parlando di questo gioco. Non è soltanto un fattore di affezione del fatto che tu l'hai stragiocato e sei innamorato di questo gioco, ma c'è anche un fattore storico, un'importanza che magari poi alla fine possiamo anche discutere con Marco, che ha giocato il predecessore, e con Luigi che in realtà poi alla fine, insomma, secondo me già c'ha pronte le sue segmentali. Sta già masticando segmentali. No, sì, esatto. Allora, Alex, dai. Allora, il gioco è stato sviluppato da questi due studenti dell'università, David Braben e Ian Bell. Non so se si pronunci Ian o Ian, dato che... Ian Bell. Ok, ed è stato distribuito dalla Acorn Soft per la prima volta nel 1984 per un computer molto particolare, il BBC Micro. Perché il BBC Micro è un computer molto particolare? Perché fondamentalmente è il computer che è nato, è vissuto, è morto in Inghilterra. Appunto, è il computer della BBC, un po' come se da noi la Rai negli anni 80 avesse sviluppato un computer. E già mi viene il Rai 80, esatto. Che già Rai 80 mi fa molto bello, fa molto casino, mi piace come approccio. Stiamo parlando del 1984, i primi anni 80, e un computer la cui potenza di calcolo e elaborazione era paragonabile a quella del Commodore 64 dello Spectrum ZX. Versioni Spectrum e Commodore 64 uscirono un anno dopo, delle conversioni dirette. La cosa più interessante di questo gioco è data dal fatto che manteneva in sé diversi diciamo caposaldi che poi sarebbero diventati dei punti fissi per i giochi di questo tipo a venire, anche se effettivamente giochi come Elite poi non ne hanno fatti più, o se li hanno fatti sono state delle copie talmente malfatte, e parlo anche dei seguiti, che non hanno avuto lo stesso impatto emotivo sul mondo. L'impatto principale che si aveva col videogioco era dato dal motore di rendering, perché per la prima volta un videogioco aveva in tempo reale un motore di rendering che riusciva a visualizzare oggetti tridimensionali, anche semplici, eliminando le linee nascoste. Esatto, si parlava di wireframe, però con l'eliminazione delle linee nascoste, una cosa che anche oggi è relativamente complessa da realizzare. Relativamente, ovviamente stiamo parlando in un mondo in cui abbiamo delle schede grafiche che macinano tonnelloni di roba, però immaginate una cosa del genere che si aggiornava relativamente frequentemente su un computer della potenza di uno Spectrum che aveva 48 kilobyte di RAM. Insomma, un oggetto decisamente non da sottovalutare. E per cui si trovava catapultati per la prima volta in un mondo virtuale con una certa dose di realismo. Un realismo che potrebbe essere paragonabile a quello di Star Wars in sala giochi. Però per la prima volta c'era questo tipo di tecnologia anche su un computer che si aveva a casa. Che poi questa tecnica del vettoriale è stata utilizzata poche volte in pochi però grandi capolavori, e anche su una sola singola macchina. Ne parlavamo un po' tempo fa, se te lo ricordi, Luigi, quando parlavamo del Vertrex, no? Sì, sì. Cioè, il concetto della grafica vettoriale in realtà aveva tantissimi pregi, però probabilmente era molto poco, aveva poco appeal dal punto di vista visivo, e quindi non ha mai riscosso un grande successo da sto punto di vista. Che poi su le versioni appunto a 8-bit c'era... La grafica era come l'ha appena descritta Alex, ma poi in realtà questi giochi sono stati poi portati anche sulle macchine a 16 bit tipo Amiga, e dove ovviamente la grafica vettoriale era grafica vettoriale piena, quindi cominciava a vedere anche i colori, qualche cosa, insomma, cioè nel senso l'aspetto grafico cominciava a diventare molto più potente, però allo stesso tempo secondo me perdeva anche un po' della sua poesia, no? Forse no. Può dire forse no. No, vabbè, cioè nel senso che la cosa affascinante, poi dopo Alex continua, però qui appunto volevo fare un attimo la mia prima digressione, che poi fondamentalmente è l'unico motivo per cui ho partecipato a questa trasmissione, perché io sì, ci ho giocato Elite, ma ci ho giocato molto poco, perché Elite mi ha dato una di quelle che poche volte mi è successo nella mia carriera da videogiocatore, che è stata quella la vertigine da videogioco, cioè nel senso la vertigine da infinito, la vertigine da spazio, perché comunque la sensazione di poter scegliere liberamente, di poter andare tra virgolette ovunque, sempre tra virgolette, quando ero ragazzino sta cosa mi ha disorientato tantissimo, no? Tra virgolette, sempre tra virgolette. E quando eri bambino, tra virgolette? No, non ero un bambino, tra virgolette. Ero disorientato, tra virgolette. Ok. E anche un po' sudaticcio. Che schifo. Che schifo. La cosa che mi riporta molto a questi giochi e al predecessore che hai giocato te, come si chiama? Star Raiders. E il fatto che comunque sì, la grafica c'era ed era anche preponderante, era importante, roba del genere, però non era essenziale al fine della giocabilità totale. Io da un po' come i simulatori dei primi ZX Spectrum o ZX81, roba del genere, dove il testo o comunque le rappresentazioni visive, iconiche dei caratteri a schermo erano importanti tanto quanto la smavicella che si muoveva, insomma, no? Luigi. Sì, è il discorso che facevamo sulla simbologia che viene evidenziata e ha una risonanza molto più forte quando si parla di retro gaming. L'assenza di elementi ti porta ad un approccio sensoriale con, in questo caso, il videogioco, che sicuramente va a toccare degli aspetti molto più emotivamente marcati, profondi, inconsci, se vuoi, perché tolto il fotorealismo rimane l'ossatura, lo scheletro anche delle tue emozioni. E questo faceva proprio questo Elite, secondo me. Io hai fatto bene a parlare prima di avventure testuali. Infatti io quando penso Elite penso un po' a quel videogioco che fece così tante vendite, mi sembra 1 milione di copie vendette. Si parla di Adventure, il gioco del 79 di Warren Robinet, che fu praticamente una trasposizione di Colossal Cave Adventure del 76, quello, il gioco che fu sviluppato dal PDP su PDP-10 all'inizio. Questo gioco Adventure, se vi ricordate, era fatto con tirazioni minime, però dava rappresentazione grafica all'interno di un dungeon, un castello dove incontravi anche un drago, tu eri semplicemente un The Man, un cursore che si muoveva all'interno di questo castello ed era guidato. Quando penso a Elite penso proprio all'impatto che si ha con uno spazio infinito, quindi la possibilità di suggestioni che questo infinito ci può dare a contatto con le possibilità di una trama che scriviamo noi. Però questa è la cosa meravigliosa di Elite, cioè non c'è una trama preimpostata, non c'è un canovaccio legato agli stilemi classici dello sparare, del colpire per distruggere e quindi raggiungere la meta soltanto distruggendo, ma si tratta di un gioco denso, complesso, che automaticamente cacciava fuori chi non era un po' addentrato all'interno di certi temi, certe suggestioni anche letterarie del tempo. Ricordiamo che è uscito nell'84, è il periodo anche di Neuromante, quindi il periodo in cui esce proprio il romanzo della prima ondata cyberpunk per eccellenza. Quindi insomma si tratta di una bella botta dal punto di vista del carico culturale e suggestionale emotivo del tempo. Che poi Morgan ci scrive nella chat spazio infinito con una mappa galattica preimpostata, cioè senza persistente, non generata ad casum random, quindi sì. Cioè, comunque c'era tutto un discorso, una progettazione, e poi come diceva Alex in realtà poi alla fine c'era anche un limite, no? Dal punto di vista spaziale, però era un limite che poi alla fine lì tu lo consideravi poco, cioè non è che stavi a pensare che la galassia sono 400 miliardi di stelle, poteva essere un settore della galassia e per te comunque era comunque infinito da quel punto di vista. Sai, mi ricorda questa cosa sempre Spore? Se lo conoscete, quello lì, sì. Di quello c'ha per esempio una galassia che è enorme, per dire, no? Anche lì quando ti ci metti a giocare e continui praticamente a esplorare, ti rendi conto che c'è una marea, ma veramente una marea di stelle, di pianeti, di esplorare. Lì, sì, lì però, un po' cioè, l'idea esporre, non c'entra niente, sì, è già su una tecnologia diversa, no? Sì, sì, senso, sì. Tu immagina un ragazzino, tu immagina Alex Raccuglia da ragazzino davanti al che tristezza che gioca a un gioco virtualmente infinito in una manciata di K, no? Che sta lì e viaggia all'interno di questo universo, che poi, come dice Luigi, non c'ha magari un canovaccio in pre-impost, cioè, nel senso, non c'ha una trama super articolata, però poi in realtà dall'inizio alla fine, perché penso che ce l'abbia, no? Nel lo senso scopo che... ce lo dice poi Alex, qual è lo scopo del gioco? Fare un sacco di soldi, come sempre. Lui. Ed è lo scopo della vita. No, lo scopo è ovviamente raggiungere il livello di elite. Vorrei, ci sarei arrivato dopo un po'. No, vorrei solo aggiungere una cosa per quanto concerne la mappa, visto che appunto mi date questi spunti di riflessione. La mappa veniva appunto per risparmiare la maggior parte di memoria possibile, con i suoi gozzilioni di stelle, era generata mediante un algoritmo frattale che consentiva di avere sempre almeno una stella più vicina di 7 anni luce, in modo che tu, se ti spostavi da un pianeta all'altro, avevi comunque la possibilità di fare il rifornimento, di tornare indietro, e tutti i nomi venivano generati in modo praticamente con delle sillabe prese e sistemate, e l'algoritmo prevedeva anche l'eliminazione di tutti i pianeti in cui c'era all'interno una parolaccia. Che insomma non è una cosa da dire. Io non c'era pianeta fuck, per dire. Non c'era pianeta fuck, probabilmente no. Peccato. Che Morgan si domanda chissà che fine ha fatto quel siluro che mancò il suo bersaglio, che il siluro che lui lanciò in una calda estate del 1900. Probabilmente ha scatenato una guerra da qualche 1985. Parte in quella galassia. In realtà, virtualmente, no, come dicevamo l'altra volta, Luigi, quando parlavamo dei simulatori di volo su Amiga o sul 3D, no? Cioè, nel senso, quando noi pensavamo, dicevamo, quel mondo esiste dentro al computer, no? Cioè, in realtà, virtualmente, sto sicuro, detto il C64 ha continuato la sua vita andando avanti. Ho detto, ha creato una guerra, secondo me. Quella galassia non esiste più per causa di quel siluro. Eraclito, il filosofo, che diceva: ogni incompiutezza o indeterminatezza è infinita. Quindi non sappiamo se il siluro ha incontrato il suo bersaglio. Quindi sta ha incontrato Eraclito e l'ha ucciso. Sarebbe tutto sommato molto diverso. Quindi la colpa comunque alla fine è sempre di Morgan. È sempre di Morgan. C'è una, a parte, diciamo una cosa: ci siamo dimenticati ovviamente prima, con i problemi tecnici della diretta, abbiamo fatto dei saluti iniziali. Ovviamente, chi si è collegato poi ha seguito dall'inizio, si è trovato in media res direttamente all'interno della puntata. Abbiamo fatto dei saluti. Io volevo salutare appunto Morgan. Anche conosciuto su Facebook come Nonna Mandraiola o Mandraiola, non so adesso. Mandracola. Comunque è arrivato lo smilzo. Grande smilzo, c'è anche lui. Siamo vicini, insomma, lui di Pescario, di Chieti, ma tra l'altro anche Paglia è pescarese. Perché ho visto Paglia Pescara. Forse sì, io l'ho conosciuto Marco poi, quindi... Forse è uno stalker, cambia città a seconda del bersaglio. Vabbè, se ci sta ascoltando magari fa un segno. Poi dicevo, mi ricordava Morgan che Elite è il primo campo stellare 3D realistico su 8-bit. Non ci dimentichiamo che l'immersività l'immaginario stellare che si aveva al periodo era rimasto quello di Space War, se vogliamo, cioè quelle stelle buttate lì, quegli asteroidi, sai, soltanto per dare un'immaginazione di 3D. Invece qua abbiamo proprio un campo stellare che ti viene contro 3D, quindi è tutta una serie di reticolato e puntini che anche a livello suggestivo vengono verso di te a seconda della velocità con cui ti muovi. Non era una quisquilia, era definire un immaginario ben preciso per la prima volta, l'84 poi, quindi tanto di cappello anche all'aspetto estetico di Elite, da questo punto di vista. In questo caso, come sempre nei giochi di quel periodo, degli anni 80, soprattutto della generazione 8-bit, anche della generazione 16, ma soprattutto in quella 8, aspetto estetico e aspetto tecnico andavano veramente di pari passo. E in un gioco di questo tipo, che è essenzialmente un tridimensionale senza texture, le due cose sono indissolubili una dall'altra. Sì. No, io in realtà poi alla fine pensavo anche, perché poi quando penso a questi giochi qua mi vengono in mente anche i giochi su PET, poi successivamente anche su VIC-20, magari gli strategici, che poi in realtà strategici tra virgolette sempre, no? Le famose virgolette di prima. No, nel senso, cioè, versioni limitate degli strategici, chiaramente, o i gestionali, dove praticamente era comunque tutto gestito per poca grafica e tanto testo. Elite in realtà poi alla fine è un bel connubio tra queste cose qua, però ecco, è sempre la rappresentazione di quello che tu vedi e l'interpretazione di quello che tu dai, di quello che sta a schermo, che tutto sommato in qualche maniera ti portava a ragionare molto di più. È chiaro che poi dopo Marco ne farà menzione sulla versione di oggi di Kitties and Google, il fatto che in realtà c'è un Elite in riprogrammazione, no? C'è un reboot, esatto, un remake. No, in realtà poi stanno anche già abbastanza in uno stato avanzato di sviluppo. Io ho visto molti video, roba del genere, cioè il realismo e la bellezza di quel gioco sono assolutamente interessanti, ma è chiaro che non è per essere i vecchi della situazione, perché poi dopo sì, forse sarà anche così. Però per quanto affascinante, bello, esteticamente più realistico e immersivo possa essere, allo stesso tempo, e qui non è una questione proprio poetica, però una questione basata sul ragionamento, su quanto tu ti impegnavi a gestire quelle quattro cazzate che tu c'avevi da gestire, quindi come diceva Alex prima, il carburante e gli anni luce che potevi farci, e tutta una serie di determinate che poi mi pare erano corrispondenti a un X numero di jump, no? di salti nel libero spazio. Essenzialmente se tu avevi il serbatoio pieno, 7 anni luce, avevi una stella che si trovava a 3 anni luce, arrivavi lì e ne avevi ancora 4, magari potevi anche tornare indietro, però fondamentalmente avevi questa somma con arrotondamento alla prima cifra decimale, per cui 3.3 anni luce, questa era la cosa tecnica. Ci scrive sempre Morgan che con Elite senza il computer di attracco non si andava troppo lontano. Approfitto per tornare sullo stream di pensieri, perché voi siete qua per farmi distrarre mentre io devo parlare del videogioco. Allora, una delle caratteristiche, la cosa più difficile del gioco era quella che quando ci si avvicinava alla stazione di attracco, dove ci si doveva mettere in linea con il buco di uscita e iniziare a girare insieme ad essa per poter entrare seamlessly all'interno del buco di attracco. Non si poteva andare dritti, perché se appena appena si entrava leggermente storti, dopo un po' praticamente si andava a scontrare contro la coreo lì e si moriva. Per cui i primi tempi pure questi da coreo lì, insomma, un raggio traente, mettetecelo. No, in realtà fondamentalmente c'era, tu potevi, dopo un po' che facevi i soldi, e dopo spieghiamo come, potevi finalmente comprare con la prostituzione, ovviamente. Esatto, il computer di attracco che praticamente ti guidava da solo. Però costava un po', per cui i tuoi primi commerci li dovevi fare senza. E torniamo un po' alla parte di commercio spaziale. Se io ho visto, letto da qualche parte, non so se uno dei nostri siti o da qualche parte, che c'è qualcuno che si vantava ancora di fare gli attracchi alla stazione praticamente a occhi chiusi, senza computer. Era Alex. Non so se era allora io ho scoperto un bug, non so se ve l'ho raccontato, della versione per PC, che non era tanto fondamentalmente un bug. In pratica su Elite avevi una barra al centro dello schermo che ti diceva quanto stavi rollando, cioè a destra e a sinistra, perché non è che tu cliccavi il pulsante destro e automaticamente rollavi di una certa velocità, anche la velocità con cui rollavi era variabile, per cui praticamente tu più cliccavi il tasto destro più curvavi velocemente. Ovviamente la velocità della coreo lì non era corrispondente alla velocità massima, per cui tendenzialmente tu devi stare sempre un pochettino a metà strada nella rotazione. Questo significava che a un certo punto tenevi premuto il tasto destro fino a quando arrivavi al punto all'incirca che ti serviva. A questo punto alternavi destro e sinistro, cioè aumentavi e diminuivi la velocità di rotazione in modo da stare abbastanza in linea con la velocità di rotazione della nave della base spaziale. Su PC però, per qualche motivo, quando premevi il tasto e dopo premevi il tasto contrario, tipo il tasto destro, e poi premevi il tasto sinistro, praticamente ti si bloccava, per cui riuscivi ad arrivare al punto di rotazione giusto, cliccavi il secondo tasto, a questo punto la tua velocità era assolutamente costante e potevi andare avanti senza grossi problemi nel buco. Infatti ho lavorato molto più velocemente su PC che su MSX. Detto questo, dicevo, si faceva prima di parlare degli acquisti, si facevano i soldi commerciando beni tra un pianeta e l'altro. Ogni pianeta aveva anche un suo regime politico c'erano le dittature, c'erano i comunisti, c'erano i capitalisti, c'era veramente come se ci fossero tante nazioni, c'erano tanti pianeti, e a seconda del regime il valore delle merci variava. In alcuni casi si poteva pagare di più una cosa, in alcuni casi meno. Il trucco per fare soldi è trovare due pianeti vicini che avessero dei prezzi molto diversi di certi item, per cui si compravano gli oggetti in un pianeta, si andava nell'altro pianeta, si vendevano, si compravano con i soldi gli altri oggetti, si tornava indietro, si faceva la spola finché non si facevano un po' di soldi. E a questo punto il nucleo forte, nel senso, era quello: abbiamo una certa sommetta di denaro, come la investiamo? Si potevano comprare potenziamenti alle armi, potenziamenti vari. I due potenziamenti più fondamentali di Elite erano essenzialmente il computer di attracco, che ti permetteva, una volta che arrivavi vicino alla stazione, lui ti diceva ok, sei in prossimità della stazione, premevi un tasto ed eri già dentro, e questo era molto veloce. Oppure comprare un'estensione della stiva di carico, che ti permetteva di commerciare con più roba. Diciamo che la tua stiva poteva portare 100 tonnellate, non mi ricordo esattamente la quantità, praticamente un certo numero di tonnellate, e oltre a quelle non potevi caricare, anche se eri pieno di soldi non potevi caricare più di questo. Se tu invece compravi l'estensione della stiva di carico, praticamente raddoppiavi, per cui potevi portare molto più materiale. E qui si dividevano le due grandi categorie di pensiero, le due scuole di pensiero: quelle che prima facevano le cose comode e dopo pian pianino si arricchivano, e quelli che dicevano prima mi arricchisco e dopo faccio le cose comode. Io sono stato uno di quelli che, quando l'ha giocato su MSX, si è comprato prima il computer di attracco. Quando l'ho giocato su PC, visto che avevo scoperto questo trucchetto, mi sono prima comprato l'estensione del cargo bay, per poter portare più roba. Tanto ormai per me entrare dentro la core lì era abbastanza semplice. Perché sei uno zozzone. Perché sono uno zozzone, assolutamente. È uno sfruttatore di bug. Che poi su Elite 1 in realtà tu non atterravi nei pianeti. No, si atterrava soltanto sulle basi. Infatti nelle interviste con David Berman dice non saremmo mai riusciti a fare la parte di atterraggio sul pianeta, ce la siamo tenuta per le idee successive, che appunto parlavamo di Frontier, che è Elite 2. Però ripeto, in Elite l'originale tutto questo era lo capivi anche da giocatore, nel senso che questa è una limitazione prettamente tecnica, però chiunque abbia giocato un po' Elite, insomma, sapeva che questa cosa c'era, lo sapeva, ma chi se ne frega, perché lui comunque viaggiava nello spazio infinito. Per tornare a rispondere ai nostri teleascoltatori, la musica del Bel Danubio Blu di Johann Strauss Junior veniva suonata durante i titoli di testa. Molto interessante. Quindi ce l'hanno chiesto. No, e lo Smizzo dice che vabbè, ecco. Poi la musica classica nello spazio è un po' una citazione di 2001 Odissea nello spazio, certo. In realtà poi alla fine è diventato un po' anche un cliché, no? In alcuni casi. Sì, assolutamente. Beh, ovviamente questa è una chiara citazione del film capolavoro del 68, 2001 Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick, che utilizza 2001 Odissea, il Bel Danubio Blu, proprio nella fase in cui c'è l'arrivo della nave spaziale alla stazione orbitante che ruota, ed è uno dei momenti topici, tra i tanti momenti topici del film, è quello in cui fondamentalmente la base spaziale continua a ruotare su se stessa per generare gravità artificiale, e per cui il vettore spaziale, lo shuttle, per entrare deve mettersi davanti al buco, come in Elite, cioè in Elite come in Dai, sto buco. Davanti al buco, e girare in sincrono, in sintonia, in modo da poter entrare. E fare l'elicottero, insomma, esatto. Abbiamo capito questo. prima di andare avanti, perché sicuramente hai altre cose da dire in merito al gioco e poi dopo all'esplorazione del prima e del dopo, e in realtà su Elite 2, su Frontier, infatti, che io giocavo su Amiga, c'era una cosa che era un po' fuorviante, che era quella dell'autopilot, che tu praticamente, quando arrivavi in prossimità di un pianeta, potevi targettare una città. Tipo, che ne so, Nuova Parigi, adesso faccio un esempio. Non era FAC. E praticamente, dopo che tu avevi messo l'avevi targhettata, potevi praticamente indirizzare con l'autopilota praticamente la nave verso quell'obiettivo lì. E questa cosa però era fuorviante, perché mentre che si avvicinava al pianeta, vabbè, andava bene, poi quando arrivava in prossimità dell'atmosfera del pianeta esplodevi. Perché chiaramente, poi questo l'ho capito dopo anni, ma molto dopo anni, per atterrare sul pianeta dovevi comunque entrare con l'angolazione, con l'angolazione con la quale si entra un pianeta, con l'atmosfera, altrimenti se tu entri in picchiata su un pianeta, facevi attrito sull'atmosfera e esplodevi. Questa è una cosa che mi ha sempre fatto biastimare, infatti io non ci ho mai continuato a giocare più tanto. L'ultima aggiunta, sempre dal carattere di carattere tecnico a quello che giustamente diceva Luigi, è il fatto di avere le stelle che si muovevano. In realtà non erano proprio le stelle, ma era fondamentalmente del pool viscolo che ti dava l'impressione di avere degli oggetti che appunto che tu ti muovevi velocemente. Questo era uno dei pochi mezzi che il giocatore aveva per capire effettivamente quanto stava andando veloce, cioè capire come si muoveva il pool viscolo rispetto a lui. Su uno schermo tutto nero, chiaramente. Esatto. Faccio un po' di inquadramento del gioco quando uscì nell'84, un po' di suggestioni del periodo. Quello che colpì, mi ricordo quando vidi per la prima volta Elite, io ero tra l'altro un bambino, un ragazzino, quando uscì, quindi lo giocai. Beh, come tutti noi, insomma. Sì, lo giocai per Amiga, per Commodore 64, ma tipo più tardi, poi nell'88-89. Era soltanto una figura mitica Elite quando uscì per me. Quello che era bello è che ti forniva un sacco di dettagli alla tua immaginazione letteraria. Presumo al tempo anche chi aveva letto Il ciclo della fondazione, parlando di un gioco che si tratta molto di commercio, avevi una sorta di realtà complessa e densa di elementi che ti permetteva di entrare dentro al suo universo in maniera molto molto seria. Non c'era poco spazio al cazzeggio in Elite dal punto di vista proprio dell'uccidere, sparare, ammazzare. Era molto molto controllato, questo era bello. Quello che mi piaceva era che era molto era un contesto molto nerd, hacker, molto cerebrale. C'era appunto queste suggestioni di Asimov, c'era una sensazione più che di libertà, di rapporto di libertà con lo spazio. Che questo poi è stato poi ripreso come concetto anche in Frontier, che aveva delle galassie generate casualmente, se vi ricordate, e quindi metteva il giocatore ancora nell'improvvisità più totale da questo punto di vista. Quello che mi piaceva di Elite era che scalzava totalmente dal giro quei videogiocatori abituati alle dinamiche spara-spara del letto facile, cioè non stabiliva connessioni con questo tipo di utenza e gli sbatteva le porte. Molta gente, capito, arrivava dal gioco, guardava, diceva non mi piace e buttava via, senza aver compreso completamente nulla del suo universo, della sua suggestione. E proprio perché aveva una densità di dettagli molto alta, ti parlava direttamente a te come amante della science fiction, della space opera e via cantando. C'era il fattore delle trattazioni commerciali, quelle della diplomazia, quelle del sentirsi inseguiti, dal punto di vista fare delle cose illegali, gli affari loschi. E poi la cosa più bella secondo me è anche il timore di poter perdere il tuo ranking dopo aver avuto diverse e svariate ore di gioco. Non ci scordiamo che Elite adesso ne abbiamo parlato così, ma è un gioco che risucchiava totalmente la tua vita dal punto di vista videoludico. Assolutamente. È stato forse il primo videogioco totalmente immersivo della storia, quasi quello che poi hanno fatto molti giochi di ruolo online successivamente. Sì, pur essendo chiuso, in realtà si tratta effettivamente di un open world a cui tu tornavi. Beh, lo era tutto sommato, eh. Ma è capitato di rimanere senza carburante? Sì, Certo. Io senza per caso cosa facevi? Andavi alla deriva. Per sempre. Eri esatto, morto. Quella è una cosa assurda, cioè. Nel suo ammucchio, cozzaglia dei vettori descritti, in realtà poi alla fine era potentemente realistico, cioè nel senso che dava proprio la sensazione. Poi è chiaro che noi eravamo i ragazzini pionieri di un'epoca di fronte a macchine che erano pionieristiche e di fronte a giochi che chiaramente noi interpretavamo in quella maniera lì. C'è Roberto Bertoni, sì, è arrivato Roberto e Morgan ci ricorda che Elite ovviamente permetteva di salvare. Sì. Era ovvio che avremmo dovuto dirlo a Roberto noi. Ovviamente si poteva salvare perché era impensabile poter andare avanti in altro modo. E probabilmente era anche impensabile poter andare avanti mediante dei codici generati. O forse non ci hanno proprio pensato. La filosofia è che tu ti salvavi avevi un salvataggio e salvavi il salvabile. Salvavi il salvabile, e per cui ti tenevi quello che ti dice. Cioè, insomma, potevi tendenzialmente tornare indietro all'ultimo salvataggio. Ricordiamo che i salvataggi allora erano su cassetta, non erano su disco. Per cui c'era sempre quella sorta di disperazione, cioè, ognuno salvava sempre un pochettino più avanti in modo da essere sicuro di non cancellare il salvataggio precedente. Certo, eh? Sì. Anche più di una volta. Più di una volta non me lo ricordo, devo dire la verità, sono... Ma forse sì, credo di sì di averlo fatto. Su PC invece si salvava su dischetto, per cui era molto meglio. Magari tenere anche due, qualcuno sicuramente avrà tenuto quelle due cassette con due salvataggi, che se si fotte una cassetta c'è l'altra. Sì, sì, sì, questo me lo ricordo. Non è molto difficile da pensarlo, insomma. E vabbè, insomma, quindi c'erano altre cose particolari di questo gioco, a parte il fluttuare all'infinito. Beh, c'erano le meteoriti che ti schiantavano all'improvviso. C'erano i pirati. La parte principale è che c'era comunque uno status, la fedina penale. Per cui tendenzialmente, se tu ti comportavi bene e non commerciavi in cose illegali, tutto andava bene. A un certo punto, e anche qua, grande antisignano, assolutamente, certo, è un GTA dello spazio. Ma c'era la possibilità di essere scannerizzati in caso di... O la morale in Fallout. Di essere scannerizzati in caso di merce illegale, cioè se uno faceva il contrabbando, ti beccavano, il contrabbando era sicuro, per dire. Non era proprio sicuro, però tendenzialmente una volta che facevi la cazzata, diciamo che la polizia ti veniva a rompere i coglioni. Delle grandi navi triangolari che ricordavano per certi versi quelle di Star Destroyer di Guerre Stellari, sì. Ovviamente avevano un po' meno di poligoni, cioè non poligoni, avevano meno dettagli, perché tutti i poligoni di Elite, cioè tutte le astronavi di Elite, erano comunque forme concave e non convesse, o viceversa. Cioè fondamentalmente non potevi... erano come se fossero delle sfere distorte, ma non si potevano fare ombra da sole, che era l'unico modo che avevano per poter eliminare le linee nascoste dal wireframe senza passare attraverso poligoni veri e propri. Allora, grande caratteristica: tu potevi comprare armi citeriori, e con quelle armi più forti potevi combattere quelle che ti venivano a rompere i coglioni, cioè altre navi. Ce n'erano spesso, cioè soprattutto nei dintorni dei pianeti meno un pochettino come dei porti di mare, diciamo, come se fosse Marsiglia. Cioè lì praticamente andavi a tuo rischio e pericolo. Se andavi da novizio ti rubavano subito tutto, ti seccavano. E man mano ti potevi comprare delle armi sempre più potenti, comprare dei missili che potevi sparare a loro una volta che li avevi targettati, e comprare un ICM jammer che praticamente, quando ti lanciavano addosso un missile, potevi premerlo e il missile praticamente veniva... Lo potevi sviare. Lo poteva sviare, esatto. La cosa più che citava Simone, che erano i pirati, invece si verificava, ed è quella prima volta che succede, ti caghi sotto dalla paura, devo dire la verità, durante i viaggi interstellari. Cioè tu, quando partevi per l'iperspazio, partivi, veniva fuori un effetto sonoro, fa vrum vrum vrum, e poi arrivavi. In alcuni casi... si verificava quella che diceva Simone Pizzi, la cavitazione, e praticamente tu venivi, ti trovavi a metà strada tra un pianeta e l'altro, e in balia dei pirati Targoid, che avevano un'astronave che stava molto lontano, non ci avvicinavi, di forma a piramide ottagonale, dalla quale uscivano dei triangolini che erano praticamente delle piccole navette che ti venivano addosso, e quando ti sparavano, dopo un po' ti potevano rubare il carico. E tu per un certo periodo non riuscivi a ricaricare l'iperspazio, per cui dovevi star lì a combattere e cercare di evitare questi Targoidi. Ma diciamo che la possibilità che ti venissero, insomma, che ti si intercettassero i Targoidi diventava più alta man mano che progredivi con il gioco. All'inizio il gioco era abbastanza buono da non farti pigliare questi spaventi subito. La cosa interessante è che man mano che proseguivi, cioè, a un certo punto potevi anche pestarli duro i Targoidi. Un'altra cosa, i triangolini, come dice appunto Morgan. A pensare a tutte queste cose mi viene proprio un magone, perché a pensare che sono passati 30 anni, cazzo. No, ma poi la roba che c'era dentro. Parlavi del... tu l'hai giocato su MSX, quanto ce l'aveva di base l'SMX? Il mio ne aveva 80k, 16k di video. Sì, ma la maggior parte degli MSX aveva 16k di video tutti, e poi o 32 o 64k di RAM normale. Il mio aveva 64k. capito? Commodore 64 64K non li aveva tutti disponibili, quindi esatto, parla sempre della trentina di K, ragazzi. Sì, sì. Cioè io lo so che dico sempre le stesse cose, ma per me è proprio questo che mi vabbè, e per me è irripetibile un discorso del genere, no? Perché poi non è tanto il fatto della complessità del gioco e la ricchezza del gioco, la quantità di cose che ci stanno all'interno del gioco, poi è chiaro che erano... Sì, abbiamo Morgan che continua a dare delle indicazioni. L'iperspazio era ottagonale a spirale, non tondo, perché il tondo costava troppo in termini di computazione. Effettivamente è vero. Io credo mettere tutti quei lati, insomma, era un po' complicato. Esatto. Fondamentalmente, io credo che David Braben e Ian Bell avessero sviluppato delle routine molto, molto efficienti per disegnare delle linee. E di conseguenza quello che potevano fare con le linee lo facevano con le linee. Ti interrompo, Alex, diamo il benvenuto così improvvisato, non era neanche previsto, Roberto Bertoni. Evviva Roberto con la battuta, dai. Ciao. Perfetto, così arrivando te abbiamo abbiamo più gente che parla tra di noi, siamo più noi che ci seguono. Pensa una cosa, Bertoni, che questa è partita male perché ovviamente sono dei problemi tecnici all'inizio e vabbè, un po' improvvisata perché sì, era tanto che ne parlavamo di sé, invece sta finendo per essere una delle puntate più interessanti e serie di archeologia videoludica, quindi aspetta che infatti metteremo una sequela di Rotti al contrario che ci presterà il buon Biggio per questa fine puntata. Esatto. Adesso l'ultima cosa di cui vorrei parlare dal punto di vista tecnico di Elite è la cosa che dal mio punto di vista, quando già allora avevo 11-12 anni, quando uscì su MSX. Quando è che è uscita su MSX? Vediamo un pochettino prima di chiedere aiuto a Morgan. Credo che sia uscito un paio d'anni dopo su MSX, cioè nell'86. E il radar tra l'altro è stato l'ultima aggiunta, l'ultima feature che hanno aggiunto al gioco prima di farlo uscire. Descrivere il radar è una delle cose che mi risulta difficile, cercherò di essere il più chiaro possibile. Allora, il gioco è un gioco veramente tridimensionale, per cui quando state nello spazio avete degli altre astronavi che sono attorno a voi, queste sono attorno a voi nello spazio tridimensionale. Come si poteva rendere questa cosa in 2D, dato che appunto la maggior parte del radar è bidimensionale? Quando ancora guardiamo i radar aerei negli aeroporti, in quello che noi pensiamo siano le sale di controllo degli aeroporti, i radar sono bidimensionali e ci fanno vedere la visione dall'alto. Però perché essenzialmente non c'è uno spazio tridimensionale. Gli aerei, ok, possono essere uno più sopra, uno più sotto, però la dimensione più... le due dimensioni sono quelle del piano, del piano terrestre. Poi se uno sta più sopra o più sotto, chi se ne frega. Mentre se... Anche perché l'altitudine è indicata al lato. Sì, però questo è un'altra cosa. Diciamo che, ripeto, non c'è tutta questa velocità. Il videogioco doveva mostrare effettivamente un gioco che si svolgeva molto velocemente. Considerate che, ok, il punto di riferimento era 2000 minuti nello spazio, ma in questo gioco lo spazio dei combattimenti era molto più vicino a quello di Guerre Stellari che a quello di 2001, perché effettivamente qua si combatteva, ci si sparava. Allora, come hanno risolto con radar? E ripeto, questo dal mio punto di vista è una delle cose più grandi della storia dei videogiochi, perché è una soluzione semplice e geniale allo stesso modo. In pratica si vede il radar non dall'alto, ma come se fosse da tre quarti dall'alto, e praticamente è una sorta di cerchio in cui al centro c'è l'iconcina della nostra astronave e tutto attorno ci sono gli oggetti che ci circondano, che possono essere altre astronavi oppure la base spaziale. La cosa più figa è che per indicare, dato che era comunque una proiezione su un piano di dove stavano i nemici, c'era una sorta di barretta che si alzava o che si abbassava rispetto al pallino dell'oggetto che ci circondava, e questo ci mostrava, questa barretta, la proiezione sul piano di dove questo si trovava. Cioè, in questo modo praticamente uno vedeva sul piano dove si proiettano gli oggetti nemici e sapeva che stavano o sopra o sotto e di quanto stavano a seconda di quanto era alta questa barretta. E tutto questo avveniva in tempo reale, per cui appena si cabrava o picchiava oppure si rollava a destra o a sinistra, automaticamente tutto il mondo del radar si modificava in modo da visualizzare effettivamente come ci si trovava. Altra cosa, i fiammiferini, dice lo Smilzo. I cerini. Altra cosa interessante è che appena si arrivava dall'iperspazio su un sistema, c'era un altro piccolo radarino in alto a destra rispetto al radar vero e proprio, che indicava invece il punto in cui si trovava l'obiettivo dove andare. Quando si arrivava appena dall'iperspazio, praticamente questo punto ci indicava dove stava il pianeta, perché in alcuni casi potevamo arrivare e avercelo proprio davanti a noi, in alcuni casi ce l'avevamo dietro le spalle, per cui dovevamo girarci e cominciare a correre velocemente, cioè andare verso il pianeta, perché altrimenti saremmo stati nello spazio esterno e non sarebbe servito a niente. Quando invece arrivavamo molto vicino alla superficie del pianeta ed eravamo nel raggio d'azione della base spaziale Coriolì, il puntino cambiava di colore e ci diceva che adesso il nostro obiettivo era la base Coriolì, per cui si trovava, ci diceva dove stare. Praticamente all'inizio ci avvicinavamo al pianeta, e poi quando eravamo abbastanza vicini al pianeta ci diceva la stazione spaziale. Credo che queste fossero le cose più interessanti e più importanti dell'interfaccia utente. Ovviamente nell'interfaccia erano anche indicati appunto lo stato dell'esistenza degli scudi, la potenza la potenza delle armi, eccetera eccetera eccetera. Però dal mio punto di vista il radar è stata veramente la cosa che ogni volta che ci giocavo dicevo: ma come cacchio gli è venuta questa idea così geniale? È interessante notare un aspetto in particolare. In un nato in un periodo che era denso di protagonismo televisivo, negli anni 80 penso all'influenza in cui erano accentrati i protagonisti su delle storie che ruotavano attorno a loro, i grandi film di fantascienza che c'era al periodo, mi ricordo Terminator, uscì per dire, quindi rapporto uomo-macchina, comunque cose legate molto in cui il protagonista, la sua invasività all'interno dello schermo lo bucava e ne faceva un... diciamo una sorta di come si dice, qualcosa che poi sarebbe rimasto nel tempo, quindi una sorta di status originario del cinema. In Elite invece c'è completa assenza del protagonista, non abbiamo una sua rappresentazione visiva quando guida la navicella, che è soltanto un HUD se vogliamo. Non sappiamo esattamente quale sia il suo retroscena, il suo background, abbiamo soltanto questi elementi molto tecnologici per l'epoca, di lettura della sua astronave, che provano a identificare tutto un tipo di immaginario. A me piace molto questo aspetto qui, perché deconcentra totalmente il giocatore dall'aspetto del realismo grafico, quindi del personaggio, della personalità del protagonista. No, infatti era proprio quello che intendevo dire anche prima, perché poi sì. In realtà sì, cioè, questo ti aiutava completamente all'immedesimazione, perché eri tu, non era, sì, esatto. John Smith per dire, cazzo, no, sì, oppure era, che era una caratteristica, John Shepard, per dire. Era una caratteristica che condivideva con molti giochi del ruolo dell'epoca, poi alla fine. Sì, che però molti giochi avevano una piccola anche rappresentazione su schermo. Io parto sempre dalla prima. Un Avatar ce l'avevano, insomma. Un Avatar, sì. Mi piace questo aspetto qui, che non era gasato per niente dal punto di vista della caratterizzazione del personaggio. Effettivamente non c'era un personaggio. Ti proiettava direttamente all'interno dello spazio. E il protagonista era lo spazio. Sì, questo aspetto qui, proprio proiettarti verso l'infinito e oltre. No, ridillo con questa voce. Verso l'infinito e oltre. Signore e signori, avete sentito Luigi Marrone come non l'avete mai sentito prima? Non sentirete mai più. Per altre puntate ho fatto anche il nostro presidente napolitano, ho fatto Mickey Mouse. Tutto su Outcast, sì, qui, su Outcast. No, qui è un'altra vita. No, adesso sto registrando in giacca e cravatta qui, anche se fa caldo. Però c'è solo la giacca e la cravatta ed è nudo, quella è una cosa molto bella. Io sono nudo davanti al climatizzatore, che dopo la giornata di oggi ho tenuto un corso senza aria condizionata, stavo morendo. Ma sentiamo anche Bertoni. Io sto dicendo adesso, io mi sono alzato per prendermi una birra e sono tornato, visto Roberto che è entrato. E sei vivo, Roberto? Sei qui? Sì, sono al pari della birra, direi. Dai. Anch'io mi sono appena scolato circa un litro e mezzo di acqua, visto che qua fa fresco come la voi, quindi... Mamma mia, ragazzi. è bellissimo. Noi stiamo anche con la finestra chiusa, diciamo. E con l'aria condizionata spenta. Chiaramente. Beh, questa è una grande mossa, direi. Vorrei chiedere una cosa a Roberto. Io avrei voluto fare una prolusione su un suo articolo pubblicato su Eurogamer.it riguardo un'intervista rilasciata da Breben. Intervista molto bella e illuminante sull'universo di Elite, ma anche sull'universo del videogioco in genere. A questo punto, visto che ci sei tu, il protagonista di questo articolo, insomma, sarebbe bello se ne parlassi un po' a vuota mazza. Sì, beh, faccio la promessa che purtroppo smonterà parte del mio carisma che ho appena guadagnato, nel senso che comunque non è mia come intervista, ma è una traduzione dei colleghi inglesi, quindi... Va bene, va bene. Ma allora va... potevo banfare. Simone, questo me lo cacci. Questo lo fanno fatto entrare, ma no, dai, confido che un'idea se l'è fatta rispetto a quello che ha tradotto, dai, traduzione e creare, ma ragazzi, io l'ho tradotto semplicemente dal Google Translate. Esatto, no, diciamo che sì, considerando che il testo non era, diciamo, agevolissimo, perché comunque Breben, scusatemi, ha un modo di esprimersi molto articolato, cioè comunque secondo me denota quello che è un po' la visione anche del suo gioco, quello che un po' mi è parso sentire nei minuti che ho ascoltato, nel senso che appunto la capacità di concepire un qualcosa che non era nella mente di nessuno in quel momento e di riuscirci con pochissimi mezzi a disposizione, quindi questo denota una visione secondo me molto incredibile, molto lungoraggio quello che è la storia dei videogiochi. E penso che anche nei suoi lavori in cui che sta cercando di creare questa cosa si possa riflettere. Io voglio dire semplicemente questo rispetto a Elite, che appunto il fatto di, come stato appena dicendo, di non avere protagonisti, il fatto di poter delineare quello che era uno spazio profondo, uno spazio infinito dove tu ti costruivi la tua propria storia, ecco, penso che questo sia stato un potere fortissimo che purtroppo, penso l'abbiate già detto comunque, si è perso negli anni, nel senso che proprio questa capacità di aprire un mondo dalla tua testa, non di importarlo, quindi sì. penso la sua più grande merito, e nelle sue parole secondo me emerge proprio questa cosa, nel senso che la sua voglia di essere pionieri, la voglia di creare qualcosa, di non creare, di non dare al giocatore qualcosa di definito, ma permettere al giocatore di poterlo vivere, quindi di rendere il videogioco un qualcosa che è bipolare, non è solamente un flusso univoco, ecco, questo penso sia importante. Poi si sente dalle parole di Alex quanto lui ha amato questo gioco, beh, penso che si sia capito nei minuti di trasmissione, ecco, e non è il solo, nel senso che ci sono moltissimi fan che ancora oggi lo adorano, lo citano, ne parlano, è una pietra di miliare, un riferimento. Qualcuno lo biastima anche, perché comunque alla fine... A proposito di biastime, io quando giocavo a giochi di ruolo interpretavo un chierico, il mio dio si chiamava Braben. Avevo scelto di chiedere. Tu facevi il chierico? La prima volta ho fatto la pirlata di fare il chierico. Lo so. La prima volta ho fatto il chierico, ma perché non capivo effettivamente quali erano i limiti. Poi, quando ho capito la cosa, la prossima volta dopo ho fatto il guerriero. Mi sono sempre rifiutato di fare il mago perché mi dava fastidio il fatto che fosse troppo facile. In Dungeons and Dragons, dopo il decimo livello, il mago vince su qualsiasi altra roba. Ed è una cosa. Allora ti voglio quando faremo. La puntata sui giochi di ruolo della SSI, perché no, assolutamente. Però devo dire che io giocavo quelli veri con carta e matita e con i dadi. Purtroppo non rientra nella nostra giurisdizione. Diciamo. Sì, come dire, non guardo, vado in prefettura. Sì. Sei proprio un romano del cazzo. Ragazzi, posso dire due parole sull'intervista di Breben? Prego, visto che mi sembra che lo conosci meglio te dell'autore dell'intervista. No, è interessante perché quello che ha ovviamente rilasciato si iscrive proprio all'interno delle nostre emozioni, del piacere di aver avuto a che fare con questo videogioco al tempo. Praticamente lui, quello che è bello è che come game designer, facciamo così, parliamolo così, oltre che come, diciamo, scrittore di codice, sentiva al tempo presente che c'era un desiderio di sensazioni di questo tipo, cioè del tipo Elite, cioè nel senso quello di perdersi all'interno di un all'interno del videogioco, di uno spazio cosmico così libero. Quindi lui ha cercato di tradurre questo tipo di realtà attraverso questo videogioco che è, incontrava comunque la prima cosa che mi è capitata a me, io come stavo lì nello spazio, oddio, ho indovato. Cioè, sì, penso che sia capitato a tutti. Quello si tratta davvero di un attimo di smarrimento, io lo chiamo orfico, nel senso sei di fronte a una rivelazione, quindi di fronte a te stesso, di fronte per la prima volta fuori da un aspetto prettamente reale, narrato o obbligato e costretto. E questo è già una grandissima cosa. Quello che mi piace però di Breben soprattutto è che lui sentiva l'esigenza delle persone di far parte di un altro mondo, come nell'intervista che ha tradotto Roberto. Paradossalmente lui, quando guarda le soap opera, dice che lui non le guarda, ma quando le guarda comprende perché la gente ne viene risucchiata, cioè l'universo che si crea anche attraverso il dialogo fra i personaggi crea qualcosa di smarrente che ti porta fuori da te stesso. E si vede che in Inghilterra hanno poco porno, perché altrimenti... Sì, e quindi cosa succede? Succede che ha sentito questa sorta di, come si può dire, di pulsione alla creazione di questo videogioco, riflettendo su una cosa fondamentale che per me è centrale nel discorso anche del futuro del videoludo, vale a dire l'intelligenza artificiale. Noi non abbiamo toccato questo aspetto, ma Elite è pieno di rapporti con l'intelligenza artificiale che interviene all'interno dei nostri movimenti. Abbiamo parlato dei pirati, ma abbiamo parlato anche della capacità di trattare con gli altri mercanti, con i commercianti che ci permettono di stabilire alcuni prezzi per quanto riguarda la nostra astronave, cambiarla, modificarla, eccetera. C'è tutto un aspetto, se vogliamo, di interazione fra realtà, se vogliamo, puramente algoritmiche, ma non per questo meno qualificate, nel sentire il rapporto con un universo di gioco. È un universo ricco denso. Non ci scordiamo che Breben ha sviluppato anche negli anni successivi Dog's Life. Non so se vi ricordate questo gioco del cane che praticamente andava in giro a fiutare i cassonetti, stabilire relazioni con gli altri cani, seguire gli odori. Sai, cioè, questo aspetto che fondamentalmente è strambo se ci pensiamo, ma è molto legato al bisogno del game design di stabilire relazioni con i personaggi nei videogiochi e fra i videogiochi. Quindi la cosa che lui si pone come obiettivo finale è superare l'ostacolo dell'intelligenza artificiale come realtà che possa muovere il giocatore a incontrare il favore nel vivere un universo di gioco o meno. Lui ha affermato, leggendo sempre da questa intervista, che oggi siamo ancora a portati a dire è tutto artificiale, vabbè, quindi è delegittimarlo. Però arriveremo a un punto, secondo lui, e secondo me è profetico questo punto di vista, in cui diremo tu hai creduto in questa sorta di realtà, adesso è un problema che è tutto falso oppure no? Quindi ci pone in una condizione diversa, filosofica quasi, rispetto al materiale di intelligenza artificiale in cui ci andiamo ad imbattere. E secondo me, correggetemi se sbaglio, ma le suggestioni che noi provavamo con Elite all'inizio, quando abbiamo cominciato a giocarci, era che si trattava di un mondo vivo, pulsante, che aspettava soltanto di essere interagito attraverso le nostre azioni. Ma correggetemi se sbaglio, però non era una realtà fittizia, sembrava quasi vera, sembrava quasi... Ma infatti, guarda, io ti ritorno a dire che è quello che abbiamo detto più di una volta in altre circostanze, quando parlavamo di questi universi 3D che venivano outputtati chiaramente dal computer sotto forma di immagine, ma poi in realtà tu stavi lì e secondo te in quel momento quell'universo esisteva, no? Quindi sì, e più era vivo e più esisteva, e te lo sanno dire quelli colpiti dal siluro di è meraviglioso il fatto che spendavamo tantissime ore, ma era anche bello pensarlo così, cioè, nel senso, probabilmente oggi noi affrontiamo i giochi con una cognizione, una competenza tecnica anche, che chiaramente ci li fa approcciare in una maniera diversa, non amare di meno magari, perché comunque ci divertiamo uguale, però sì, comunque è chiaro che tu già sai, no? Che quello che cioè non c'è più quel fascino misterioso dell'incognita, del non conosciuto, no? Perché io quando ero un ragazzino e stavo di fronte al Commodore 64, oggettivamente non lo sapevo come funzionavano le cose, no? E quindi per me, quando io vedevo ero sulla navicella e stavo alla deriva nello spazio perché era pieno il carburante. Per me ero alla deriva nello spazio, cioè nel senso, sì, sì. E non, nessuno mi poteva venire a aiutare. Cioè, ma vi ricordate il terrore? Cioè, rispetto a tanti altri giochi che magari comunque in qualche maniera c'era sempre l'escamotage o c'era il game over, lì alla fine non c'era neanche, perché cioè, finita la benzina, game over. No, tu andavi alla deriva nello spazio. Sì, sì, era anche un rapporto esistenziale con il tuo, con te stesso, che fondamentalmente ti faceva pensare alla responsabilità delle tue azioni. Ecco, era anche un gioco che ti responsabilizzava rispetto all'agire dentro un contesto fittizio, che fondamentalmente i videogiochi spara-spara, come li chiama Breven, cioè quelli legati alla violenza, quelle dinamiche di uccisione, di eliminazione dell'avversario, non prevedono, non contemplano per niente. Quindi cioè, stiamo su dei livelli proprio di concezione del videogioco differenti. Infatti Bremer parla proprio di videogioco totalmente differente. Lui dice che la parola gioco è indefinita. Per lui si tratta di costruire mondi, usare la fantasia, vivere cose che non si potrebbero fare in nessun altro modo. Quindi fondamentalmente non si tratta soltanto di raggiungere gli obiettivi, ma di ridefinire la parola stessa del videogioco, e lui lo ha fatto cioè lui ha creato veramente un paradigma dove tutti poi hanno parlato di un gioco tipo Elite. Quando hai queste concezioni, illuminazioni, poi realizzazioni, tu scrivi la storia del videogioco, non stai scrivendo soltanto un gioco che chiudi dentro una scatoletta di cartoncino e via. Cioè, qua si sta parlando veramente di cose fondamentali che hanno segnato il passo. E c'è una cosa che volevo dire, scusami, prima Simone, di quello che tu stavi parlando, intelligenza artificiale. Interrompere, quindi caldo, vai alla fine. È caldo. Se vuoi aggiungo qualcosa io mentre ci pensi, tranquillamente. Vai. Nel senso che un ultimo aspetto che volevo sottolineare era questo, nel senso che lancio una provocazione, spero che non l'abbiate già lanciata, nel caso scusatemi, è che ritengo che se... Per cui ragazzi, anche se non l'abbiamo lanciata, diciamo che l'abbiamo già lanciata, così lui si scusa. Ok, mi scuso. Che un gioco come Elite, ora, secondo me, sarebbe probabilmente un fallimento. Sì, sì, assolutamente. Ma come è già stato Kickstarter? No! Ma come è già stato un fallimento Frontier? Ma no! No, non è vero, Frontier non è stato... È vero, è come contestualmente era diverso, cioè... Era in un contesto diverso, sì, forse non posso era. Chiedere una cosa a Roberto, perché tu cosa intendi un gioco come Elite, in che senso? Allora, come tipo di tipologia di gioco o come grafica? No, la grafica chiaramente quella sarebbe al passo coi tempi, che non è un problema. No, il discorso diciamo è prettamente basato sulle potenzialità di gioco che il giocatore ha di fronte a sé, nel senso che il senso di dispersione, nel senso di non sapere bene cosa fare in un contesto attuale dove la maggior parte delle narrazioni sono predefinite, definite, dove anche i canovacci narrativi sono comunque limitati, non c'è questa libertà di azione così importante. Il giocatore attuale se mai si troverebbe troppo disorientato di fronte a una cosa del genere. Aggiungo anche il discorso, se vogliamo, adesso magari vado oltre le intenzioni degli autori originali, però anche un discorso morale dove tu potevi fare il buono o il cattivo, è un'interazione vera, nel senso, appunto diceva anche Luigi, è un contesto vero di un mondo pulsante. Sto giocando recentemente un gioco che è Shadowrun Returns, dove pur all'interno di un contesto dove sembrerebbe esserci comunque una tipologia di scelta morale sulle scelte che vai a prendere in un gioco di ruolo, comunque ti senti comunque all'interno dei binari, non c'è possibilità di veramente di plasmare la storia. Invece in Elite la storia te la costruivi tu dall'inizio alla fine, e secondo me il giocatore attuale non è assolutamente abituato a una cosa del genere, anzi molti lo bollerebbero come indefinito, che non ha obiettivi, alla stregua di altri giochi per cui si discute per secoli se è un videogioco o meno. Io penso che sia un po' relativa questa cosa, perché poi tanti giochi che poi sono open world oggi si giocano più che altro per fare cose secondarie più che fare per le trame principali. Ci sono tanti giochi simili a Elite, lo stesso Star Citizen che è praticamente in crowdfunding, che ha raccolto 11 milioni di gozzilioni di baiocchi, che praticamente ha fatto il botto, che è praticamente un mega clone di Elite, come cioè anche ci stavano suggerendo EVE Online, che è un mega clone, cioè quindi comunque tira, il genere tira, esplora, per commercio, caso, combatti. Per caso l'ha suggerito lo Smilzo, per esatto, caso? Esatto, sì. Adesso io non sto vedendo la chat, però oggi mi parlava proprio lui di EVE Online, lui mi diceva, io ho dovuto, Elite mi ha succhiato talmente tanto la vita che se mi buttassi in EVE Online e quindi ha già dato la paternità Elite di EVE Online, probabilmente adesso non uscirei più di casa. Quindi c'è una realtà, però se andiamo a analizzare EVE Online, scusami distruggitore se ti interrompo per una piccola parentesi, no. Oggi siamo legati molto al videogioco multiplayer, quindi c'è un incontro oltre che l'intelligenza artificiale con l'intelligenza umana che sta dietro al videogioco, quindi dovrebbe essere ridefiniti totalmente i rapporti del videogioco con gli utenti che stanno su quel tipo di piattaforma e quel tipo di gioco stesso. Quindi per EVE Online sì, però per esempio c'è Star Citizen, non so se no, però capisco Capisco, Roberto, sì. Che tipo di giocatore è inquadrato? Non sicuramente il giocatore che una volta giocava Elite. Tu hai inquadrato un tipo di giocatore totalmente differente, in cui se gli viene dato tutta una bella pappetta con l'anima di Elite, non ci saprebbe far fronte oggi. E su questo io do ragione, cioè nel senso che mi rendo conto perfettamente. Sapete forse qual è la grande differenza? È il modo di fruire la quantità di videogiochi. Cioè io mi ricordo che credo di aver giocato Elite per un anno e aver giocato altri due o tre giochi nel frattempo, cioè non avevo questa grande disponibilità, per cui dal mio punto di vista perdermi in un'ora, due ore, tre ore al giorno su questa cosa era parte integrante, perché non è che avessi avuto altre cose. Adesso diciamo che quando un gioco dura 20 ore sono già tante, è una provocazione, però la filosofia è questa. E a volte in alcuni casi sono anche troppe. Esatto, capisci che non c'è più spazio, cioè in 20 ore in Elite fondamentalmente facevi il primo passaggio di livello. Torno a parlare del gioco perché man mano che tu ti potenziavi, che diventavi più ricco e compravi più armi eccetera eccetera eccetera eccetera, da armless, cioè non fai paura neanche a una mosca, diventavi sempre più figo fino ad arrivare teoricamente al livello di Elite. Arrivavi al livello di Elite anche quando dopo un po' ti potevi comprare un nuovo modulo dell'iperspazio che ti consentiva una volta e una sola volta di cambiare galassia, praticamente di andare sulla seconda galassia e lì ricominciare, ovviamente con tutti gli armamenti e con tutto quanto, però in un posto dove non potevi più tornare indietro, se non facendo il giro di tutte le galassie, ce n'erano 8. Altra aggiunta, che è stata un'aggiunta molto forte del videogioco, è il fatto che nella conversione originale era presente un volumetto con un piccolo racconto di una quarantina, cinquantina di pagine, che introduceva il giocatore nella storia del gioco, per cui fondamentalmente se te lo leggevi nel frattempo, prima o dopo, ti dava quell'indicazione di quello che era il mondo di gioco senza doverci giocare. Oggi ci sarebbe l'equivalente animato di un codex, per farvi capire. Allora non c'era la possibilità, non c'era lo spazio fisico per ficcarci dentro anche una storia, per cui la storia era su un altro medium, per cui stava da un'altra parte. Infine, tanto per tornare al gioco, poi dopo parliamo delle riflessioni, e voglio chiedere una cosa a Luigi proprio specifica a lui. Quando si arrivava al livello finale, cioè al livello Elite, in alcuni casi potevano essere date al giocatore alcune missioni, tipo andare a recuperare qualcosa o andare da qualche parte. Cioè, diciamo, c'erano missioni che erano molto varie a seconda della piattaforma su cui era stato portato il gioco, e che davano appunto ancora più esperienza e ancora davano fondamentalmente un senso a tutto il gioco vero e proprio, perché ti davano finalmente qualcosa da fare e non eri più libero da completamente free roaming. Però ripeto, uno poteva seguirla o non seguirla. E a questo punto, avendo finito di parlare più o meno del videogioco, io volevo chiedere una riflessione a Luigi, perché in una vecchia puntata di Retrocast che io ascoltai andando in bicicletta allenandomi la mattina, lui portò come suo gioco un videogioco che a me ha sempre colpito abbastanza. Io per qualche motivo più e tecnico e anche di esperienza associo molto Elite, che è Sentinel. Sì. Tu trovi un paragone tra i due giochi? Assolutamente sì. Tra l'altro, prima non ho voluto citare per non uscire fuori tema, usare un termine da maestra d'elementare. Penso che Sentinel sia, da un punto di vista delle suggestioni che ti legano al mondo di videogioco in cui vai a interagire, molto simile a Elite per quanto riguarda l'estraneamento che ti porta, più che altro proprio a livello emotivo, se vogliamo spirituale, uso un parolone, con il medium videogioco. Partono tutte e due da due menti molto autoriali. Quindi stiamo parlando di due game designer, fra quello di Elite e quello di Crammond, di Sentinel, che apparentemente sono precursori di quello che è un modo di intendere il videogioco che è assolutamente coraggioso, quindi autoriale, unico, non ce ne sono di simili all'epoca di game designer così precisi nell'inquadrare la propria visione. Mi ci porta perché, oltre ad avere la suggestione avendo giocato su Commodore 64, quindi su questa piattaforma che al tempo non permetteva una grafica forse così grandiosamente apprezzabile, però assolutamente funzionale, il concept, il design, il modo di trovarsi all'interno di un mondo, in questo caso di The Sentinel distopico, mi dava delle suggestioni alla Elite. Ti confermo, Alex, che c'è una sorta di parallelo che io sentivo fra le due cose, vedendoli forse anche come mitizzazione, perché al tempo erano stati mitizzati questi due videogiochi, veramente creavano una scena a sé nel mondo videoludico. Però sì, c'è da dire che forse se vado a scavare a livello proprio inconscio, interiore, su quello che sulle tracce che hanno lasciato nella mia esperienza videoludica, mia come presumo di tutti voi, per chi ha avuto la fortuna di imbatterci, sì, hanno una potenza evocativa e un modo di intendere l'ludus videogioco come forse nessun altro tipo di esperienza al tempo poteva regalare, poteva donare con tanta generosità. E non saprei cosa aggiungere. Io su quella puntata parlai molto di Elite come rapporto fra il videogiocatore e un modo di intendere la realtà dal punto di vista anche sociale, di dominazione, di costruzione di paesaggio, di rapporto con l'inconscio. Però non mi sembra, secondo me, la sede adatta per poterlo richiamare. Non so, non c'entra quasi nulla con no, poi vabbè, perché noi eravamo partiti anche dalla riflessione della grande disamina che hai fatto, no, di Sentinel, quando ne parlammo su Retrocast. E in realtà, secondo me, poi alla fine non c'ha assolutamente torto Alex nel trovare un parallelismo, perché poi comunque l'immaginario sia in entrambi i giochi comunque è l'elemento più potente, poi tutto sommato. Sì. Sì, sì, sì, sì. Forse paradossalmente su Elite lo è in maniera diversa, perché è comunque una costruzione più realistica per quanto fantascientifica, mentre Sentinel sì, è anche è astratto. The Sentinel ha Elite ha delle connotazioni ben precise. Si tratta fondamentalmente di uno spazio in cui tu devi commerciare, devi fare delle azioni precise che sono anche nella vita di tutti i giorni fondamentalmente comprensibili. In The Sentinel invece sei una realtà completamente surreale, in cui devi conquistare posizioni a livello strategico, e all'interno io di quella riflessione che feci ci misi anche il rapporto che abbiamo con la divinità, il senso dell'essere nascosti, la colpa, il rubare le posizioni senza farsi vedere, il rapporto con insomma con un aspetto anche religioso del vivere, in questo caso il videogioco, ma anche il rapporto con la vita. Ho fatto questa sorta di parallelo, però il punto di contatto secondo me è proprio il trovarsi all'interno di uno spazio che noi dobbiamo in qualche modo conquistare, un spazio, un ignoto che dobbiamo a cui noi dobbiamo esistenzialmente approcciarci, nel caso di The Sentinel, e fisicamente superare nel caso di Elite. Quindi questa, secondo me, questa sorta di parallelo lo vedo proprio in questo aspetto qui. Cioè noi siamo buttati in questo ignoto, cerchiamo di capire che cazzo dobbiamo fare e giochiamo con le regole che il videogioco ci dà, però conserviamo comunque il mistero di fondo. Noi sappiamo che Elite non arriveremo mai in fine, cioè possiamo raggiungere forse il rango di Elite, ma potremmo essere scavalcati, se vogliamo, da altri giocatori. Comunque il mondo è talmente vasto, infinito, ci sono tante galassie, tanti pianeti. Con The Sentinel non ho idea di quanti mondi vengono generati, che bisogna conquistare, bisogna scalare come vetta per poter raggiungere la posizione poi di questa sentinella che ci guarda. Quindi il rapporto con lo spazio è fondamentalmente diverso dal punto di vista proprio dell'interazione, ma la suggestione che ci provoca a livello del rapporto con la libertà, il mistero, dell'ignoto, di quello che accade, è simile. E io penso che i due game designer, ripeto, Crammond e Bremen, comunque siano stati mossi da un tipo di suggestione nel creare questi videogiochi, se vogliamo inconscia, però simile. Volevano veramente abbracciare uno scibile molto grande dal punto di vista del rapporto dell'uomo con la vita, con lo spazio, con l'essere. Però questa è una sega mentale che forse non è il caso di affrontare. Ma noi siamo nerd, a noi le seghe ci piacciono. Alex, sì. Io ti propongo di chiudere il cerchio. Stavo per farlo io. Su Elite, poi magari parliamo, vediamo un attimo, sentiamo anche Marco riguardo a Sunriders. The Raiders, che comunque. Perché mi sto addormentando. C'è il caldo, il bambino che piange sopra. Capisco che posso fare questo effetto, io poi mi perdo, ma addormento anch'io, sono le stesse parole, infatti non so cosa dico. C'è il caldo, c'è il bambino Satana che piange, un macello, guarda. Poi a quel punto poi dopo facciamo varie conclusioni, ognuno esprime le proprie considerazioni, poi penso che c'è anche Roberto doveva dare delle indicazioni, dei suggerimenti. Io però c'è una cosa, non so, che come se c'era un gioco sempre spaziale di una decina d'anni fa, forse qualcosa di più, che mi è rimasto impresso, non riesco a, che mi piaceva non tanto per il fascino unico che c'è stato con Elite, penso che era solo quello, però in questo caso era bella l'atmosfera, cioè la ricostruzione dello spazio. Ma su quelle piattaforme, penso su PC. Anzi, non che trattava, diciamo, non mi ricordo, però mi ricordo che c'era sto gioco. Fu molto pubblicizzato, perché in realtà mi ricordo tante recensioni. Freelancer, Starlancer della Microsoft, pubblicato da Microsoft. No, però aveva i baffi, gli occhi azzurri e c'ha le ginocchia a punta. Allora la Freelancer, no, l'avevo visto tra l'altro recentemente, ne hanno parlato, non mi ricordo dove. Ma se non ci dicevo, stavo cercando di scartabellare, infatti pensavo che era su Old Games Italia, invece in realtà non è, anche se poi su Old Games Italia recentemente avete pubblicato quell'articolo di quel gioco freeware, insomma, che è molto ispirato ad Elite. E poi tra l'altro a fine trasmissione faccio anche una citazione, perché l'amico Cristiano Bei tra l'altro ci ha linkato un progetto di retroprogrammazione su Warwick 1, proprio di un gioco che è ispirato a Elite, talmente ispirato che a parte il nome, insomma, il gioco è praticamente identico. Comunque, vabbè Alex, dai, io intanto cerco il mio gioco. Ok, vorrei chiedere linkarti intanto. Scusa? Vai. No, provo a linkarli e vedere se è quello che pensavo. Okay. Freelancer. Vai pure. No, ma il Freelancer non mi dice niente il nome, quindi non è. Passerei invece la parola a Marco, che ci parla del predecessore di Elite. Il gran predecessore di Elite. Un videogioco del 79, dicesi Star Raiders, che tra l'altro io giocai per secondo, perché il mio primo contatto con l'universo Star Raiders fu col secondo, che tra l'altro non doveva essere neanche uno Star Raiders, ma era fuoritutolato e riconvertito per diventare Star Raiders, perché era, mi sembra si chiamasse in un altro modo, ispirato a un film che fu un flop e quindi fu convertito. Quindi praticamente passai da un gioco con grafica con molti colori, insomma, che era Star Raiders 2, passai successivamente a Star Raiders 1 del 79, che fondamentalmente è, non dico monocromatico, ma poco era. Io ci giocavo sulla Atari 800XL, questo in realtà uscì per macchine 8-bit, quindi poi riconvertito successivamente. Lo scopo di Star Raiders, che è classico, è quello di distruggere. Tu praticamente sei su un'astronave che devi combattere i perfidi Zylon. Anche qui abbiamo una visione dall'interno del cockpit, come si chiama, della cabina di pilotaggio, molto molto scarno, quindi si vedono le stelle che vengono quando metti in moto il motore, che ha 9 velocità. Non sono stelle, pulviscolo. No, quelle sono stelle, quindi. E c'è praticamente un mirino che ti dice appunto dove stai andando, che ti indica il centro della mappa, c'è anche una mappa galattica, non solo, ma c'è anche il visore sul retro, quindi puoi anche vedere di dietro. E che cosa fa questa nave? Deve, molto Star Trek, deve, molto sì, Star sì, Wars, cioè. Ma calcola che la nave è armata di siduri fotonici, e praticamente che cosa succede? Ci sono questi perfidi cattivi, il Zylon o Zylon, che vogliono distruggere la tua specie. Tu sei l'ultima nave che è riuscita a decollare, che è potentissima, che può riuscire a sconfiggere, che spara pietre, e quelli sono i siduri fotonici. E praticamente hai a disposizione una mappa galattica che ovviamente è molto molto molto più piccola di quella di Elite, è a forma di scacchiera con diversi quadrati, ogni quadrato potrebbe ospitare una flotta aliena che va dai 2 cioè che, due astronavi, tre astronavi o quattro astronavi. Ovviamente meno ce ne sono, più veloce è la flotta, la flottiglia, quindi più velocemente si muove nella scacchiera. Lo scopo dei nemici è ovviamente abbatterti se li vai a rompere le scatole, oppure più semplicemente distruggere tutte le basi stellari che sono sulla mappa. Queste basi stellari sono fondamentali per la tua astronave, perché la tua astronave può subire danni, a parte rimanere a secco di energia, quindi qui il famoso fluttuare poi nello spazio per sempre che c'era anche su Star Raiders. Ripeto, siamo solo nell'immenso vuoto che c'è. Solo nell'immenso vuoto dell'universo, soprattutto. E praticamente puoi riparare gli eventuali danni che può subire all'astronave, quindi danni ai motori, danni ai sensori, danni agli scudi, cosa molto importante, che devono appunto essere riparati. Ovviamente ci sono vari tipi di danni. Ma anche su ST questo? Non lo so, penso, può darsi che ci sia stata qualche conversione. Questi danni ovviamente possono essere totali, cioè un sistema può essere completamente inutilizzabile, oppure parziale, quindi può, che ne so, avere lo scudo che funziona praticamente random, quindi un po' sì, un po' no, quindi si accende e si spegne in continuazione. Lo scudo è molto importante perché ovviamente senza lo scudo un colpo e sei morto, anche un meteorite che puoi incrociare per sbaglio nello spazio potrebbe distruggerti, e quindi è importante tenerlo sempre attivo. Tra l'altro nel gioco era possibile non solo fare la velocità, ma guardare le spalle, addirittura accendere o spegnere gli scudi per risparmiare energia se sei proprio a corto. La cosa importante era poi la cosa importante era difendere le basi stellari, appunto, come dicevo, perché nella scacchiera queste basi venivano circondate nei quattro quadrati appunto antistanti alle basi stellari dalle flotte nemiche. Queste flotte, quando circondavano, mi spegni il, cioè, grazie. Queste flotte, quando circondavano la tua base, praticamente facevano in modo che la base cominciasse a lampeggiare in segno di pericolo, e avevi un tot numero di secondi, mi sembra un paio di minuti, per distruggere completamente almeno una flotta attiva alla base sotto attacco, in modo da fermare l'assedio. Se ciò non succedeva, la base stellare veniva distrutta e al posto della base venivano forgiate due navi stellari nemiche, quindi c'era anche la possibilità di avere dei nemici in più sulla scacchiera. Tant'è che c'era anche la manovra di sacrificio: se era passato troppo tempo, se la tua nave era troppo mal ridotta da poter affrontare i nemici e difendere la base stellare, era conveniente, per evitare di avere più nemici successivamente, andare dove c'era la base stellare in pericolo e distruggerla. Anche qui dovevi attraccare manualmente alla base, era un po' più semplice perché bastava avvicinarsi fino a un certo punto, fino a che non si vedevano, tra virgolette, le finestrelle della nave stellare, bloccare il motore e aspettare che partisse una specie di spinotto che si attaccava alla tua astronave, la ricaricava e la rimetteva in sesto. Era anche qui un gioco dove non c'era un punteggio se non un grado che veniva dato, che partiva dalla pilota di navi spazzatura, un poco galattico, ad arrivare a Star Commander, cioè quello è il grado più alto. Star Megoglio, capito? Oltre appunto la possibilità di finire l'energia e fruttare per sempre, c'era la possibilità anche di essere distrutto, e quindi di vedere i propri frammenti sbriciolati e vagare nello spazio con inquadratura che rimaneva fissa per sempre, cioè dovevi proprio resettare la partita perché non c'era possibilità di ricominciare, c'erano i tuoi frammenti e vagavano per... Ora, per ti faccio io una domanda, così sì, poi dopo rientriamo nel tema principale. A parte la differenza che Elite era un gioco di... commerciale, di commercio, sì, commercio, esplorazione e combattimento, e questo invece era un gioco solo di sparare, di battaglia, insomma, esatto, fondamentalmente, anche se difensiva. Quali sono le similitudini che tu trovi tra i due giochi, e in che modo Elite è un po' l'evoluzione dell'intuizione di Star Riders? Beh, innanzitutto appunto il fatto del non vedere l'astronave, innanzitutto, perché c'è soltanto l'aspetto il prima persona, cioè la visione in prima persona. C'era anche qui lo spostamento tra un settore all'altro attraverso l'hyperdrive tra l'altro era anche difficile da utilizzare, perché nei livelli normali e difficili doveva essere pilotata a mano, quindi tu prendevi il mirino fisso dell'astronave e dovevi seguire il mirino mobile dell'hyperdrive fino a che non raggiungeva la velocità di 999. A quel punto andavi in iperspazio e ti trovavi teletrasportato nel nuovo mondo, anzi. Il radar era molto semplice, perché praticamente c'era ascisse ordinate, giusto? Ho detto una cavolata? Quindi destra, sinistra, su e giù. Destra, sinistra, su e giù, con numeri negativi e positivi. Tu dovevi andare sul bersaglio facendo arrivare il radar, il contatore di ascisse ordinate, a zero. Quando eri a zero significa che stavi andando verso il punto giusto, anche il qui dove avevi le tue basi, il punto G, quindi la base o i nemici. E, insomma, poi ci sono diverse sfumature. Il 2 penso che a me piaceva, ma il 2 era molto più complicato, perché Star Raiders 2, tra l'altro, non solo devi difendere le tue città sui due pianeti nel tuo sistema, ma dovevi andare nel sistema nemico ad abbattere le città nemiche che costruivano le astronavi. Quindi fino a che non distruggevi tutte quante le astronavi nemiche non poteva finire il gioco, perché quelli ti continuavano a mandare orde di astronavi. Certo, era molto più, tra virgolette, semplificato, perché l'hyperdrive era automatico, tu cliccavi praticamente dal punto A al punto B, dal pianeta A al pianeta B, come su Mass Effect, premevi il pulsantino e andava, esatto, più o meno come Mass Effect, cioè la mappa stellare è molto molto simile a quella di Mass Effect. E c'era appunto questa cosa di difendere non solo nello spazio ma anche sui pianeti i tuoi mondi sotto attacco. Allora, questo sarebbe il pianeta. Quelle macchioline, vedi, arancioni, quelle sono le tue città. Invece quelle altre cose che lampeggiano sono i nemici. Ma bello schifo. Ah sì, però era divertente. Penso mio padre ci giocava allo sfinimento. Proprio si montava la Atari 800 XL da solo e se lo giocava. No, è interessante assolutamente. Mentre a questo punto ti ringrazio. Prego. Invece Roberto, se vuoi aggiungere te qualche cosa, fai qualche commento, ma poi se non sbaglio ci sta, appunto, lo metteremo nelle note dell'episodio, quel progetto Freeware, se ne vuoi un attimo parlare poi. Sì, io appunto aggiungo due informazioni. La prima, non so se ti hai parlato anche dell'amico di David, Ian Bell, con cui ho avuto a che fare in maniera molto gentile e simpatica, e si sono voluti molto bene, perché a un certo punto il buon Ian ha deciso di pubblicare gli episodi Elite in forma gratuita sulla rete. Breben non era molto d'accordo, però alla fine l'ha vinta lui. Infatti, se andate sulla pagina ufficiale di Ian Bell, potete scaricare molto materiale riguardo Elite e anche i codici originali del gioco. Quindi, se qualcuno vuole farsi del male, può trovare tutto. Quindi, questo posso metterlo nelle note dell'episodio tranquillamente. Adesso certo, incollo in chat. I codici originali. Ecco. Anche il sito è molto bello, .clara.net. Ok. E l'altra informazione che volevo dare, appunto, ne ho trovato su Games Italia qualche settimana dietro, ovvero Pioneer, un gioco freeware, sempre, quindi ispirato chiaramente a Elite, il cui sviluppo sembra procedere a diverso tempo, sembra molto interessante e secondo me per chiunque è appassionato di quello che è il gioco originale potrebbe essere una bella sorpresa. Considerate anche che è in continuo sviluppo, quindi sia mai che magari qualcuno possa anche venire voglia di tradurlo per dare una mano anche per giocatori non anglofoni, quindi potrebbe essere interessante, ecco. Queste due aggiunte mi sembrano pertinenti. Io segnalo il gioco che è in sviluppo adesso, a parte Elite 4, ma di cui facciamo una chiacchierata, che sono Ulite, cioè Olite, che praticamente è un clone neanche tanto nascosto, però realizzato con grafica odierna, per cui poligoni pieni e con texture mapping, ma soprattutto l'applicazione per iOS che si chiama Unknown, che praticamente è Elite, esattamente come era, anche con gli stessi nomi dei pianeti, delle galassie. L'unica differenza è che i poligoni sono pieni, non è in wireframe, il resto è esattamente ci sono come versioni gioco. Android? Faccio domanda da un milione di La domanda è sarcazzo, la risposta è, scusami, perché purtroppo ho soltanto un iOS, per cui cerco di capire se c'è Elite su Android. Molto bello. Appunto, metteremo nelle note dell'episodio anche quello che dicevo prima di Cristiano Bay, che si chiama 1337, sì, 1337, che è un esercizio, insomma, di retro retroprogrammazione su Oric 1, ma in realtà poi il gioco è veramente è identico. Se andate sul sito ci sono dei video, insomma, per capire insomma quanto in realtà anche in questo caso stiamo parlando veramente di un clone, quindi più di un vezzo di un esercizio di programmazione che è una vera ispirazione dal punto di vista del gioco. E, a questo punto io farei, se Alex è d'accordo, un Kit Sengoogle al volo. Sì, scusa, prima di passare a Kit Sengoogle vorrei parlare soltanto del progetto di Elite 4, che è un progetto di David Braben che si sta crowdfundando su Kickstarter. Infatti stava sul Kit Sengoogle. Ma ti ringrazio per avermi bruciato una delle mie piccole pochissime notizie. Comunque, è una roba da Kit Sengoogle, anteriore. Ok, ed è una cosa da Kit Sengoogle, pensavo che fosse una cosa seria, no? Ok, allora, signore e signori, no, perché da Kit ho preso cose simpatiche e cose non simpatiche. Cose antipatiche. Anche perché su Elite, se vai a cercare di curiosità, di cose strane, dove non se ne trovano tantissime, perché ci sono tante di quei remake, reboot, che veramente da diventare scemi. Quindi cose proprio buffe non ce ne sono, e quindi ho messo delle cose semplici. Ok, allora, signore e signori, lancio la sigletta. Ok, allora, signore e signori, Kit Sengoogle. Kit Sengoogle. Ed ora eccoci di nuovo con questa notizia in anteprima. Pensate, su Kickstarter c'è un gruppo di sparuti programmatori che sta appunto raccogliendo soldi per un nuovo Elite, che dovrebbe essere una versione 4, ma chissà che può dirlo. Sono arrivati circa a 1,5 milioni. Ma il 3 quale sarebbe? Scusa, non si sa. Frontier 2. Non è dato saperlo. Sono arrivato a 1,5 milioni di sterline, me coglions, vedi? Comunque, complimenti. E quindi date anche voi i vostri piccioli, metteremo quasi 26.000 bags, ceppe di pezzo. Beh, comunque, però, per un videogioco che dovrebbe essere, non dico AAA, però un po' di A, non sì, sono tantissime. Vabbè, comunque, visivamente, io ho visto i video. Il problema è che ci sta pure. Vedete com'è la simulazione? E ci sta pure Star Citizen, che praticamente è un clonissimo, pure quello che ha fatto 10 volte tanto. Quindi, c'ha dei bei competitors. Poi c'è un link del gioco su Abandonia che metteremo. Non ho ancora provato perché ho avuto il tempo di provarlo, però sembrerebbe che scusa, si possa giocare. Posso, sì. Posso interromperti? Sono assolutamente d'accordo nel dire ok Kickstarter, però dal vostro punto di vista non è che Kickstarter è diventata la piattaforma per fare, diciamo, ricerche di mercato ed essere pagati invece che pagare? Beh, sì, no. Forse non è la puntata nella quale discute di questo. Lo faremo su dietrologia videoludica. Esatto. Come sempre a parlare di dietrologia videoludica, perché è una cosa figa, mentre qua di archeologia siamo ormai... No, qui noi parliamo di storia, solo, non è che siamo... Vabbè, chiedo venia. Ne potremo parlare fra 10 anni di Kickstarter. Esatto. Ma ascolta, fra 10 anni c'è la puntata dell'amica. Amica. Sono amica. Vabbè, quindi amica, sotto amica, ci facciamo 12 puntate. Fra 10 anni. Devi mantenere il piano editoriale. Che cazzo? Esatto, cioè, ci sono, facciamo c'è uno speciale, Roberto. Facciamo uno speciale, dai. Viva l'amica. Vabbè, comunque, secondo link. Secondo link, appunto, è questo. Chi vuole giocare con Elite, su Abbandoni, ci può provare. Provatelo. Ma tanto lo puoi scaricare direttamente al sito dell'autore, quindi. A gratis, sì. Anche lì, quindi. Poi c'è una notizia simpatica che Notch voleva fare l'anno scorso, addirittura penso sia morto nel frattempo questa idea. Voleva fare la sua versione di Elite, tanto ne sentivamo la mancanza della sua versione. E poi non so se Alex si è iscritto, ma c'è una lista mondiale, che non so quanto sia aggiornata, dei giocatori di Elite che hanno raggiunto il grado di Elite. E dove dicono: se tu hai raggiunto il grado di Elite nel gioco, clicca sul bottone rosso e ti inviamo un virus e poi dopo muori tutto quanto. Dovrai cominciare il gioco da capo. Quindi non so, tu l'hai visto questo link, Alex? È la prima volta che lo vedo. Ci sono 3-4 italiani. Sì, 3-4 italiani, però non ho Commander Lorenzo. Non ho avuto il coraggio di cliccare sul bottone rosso. Come lo dimostri che c'è? Potremmo intervistarli, secondo me. Gli italiani o quelli che hanno fatto il sito? Italiani. Italiani. Prova a cliccare sul bottone rosso, Alex. E ci clicco in questo momento. Vai. No, aspetta, prima finisci la trasmissione. No, ma tanto ah, beh, viene lui, fuori ma un dai. Questionario. Ah, ok. Ah, beh, vabbè. Allora, viene fuori un questionario e devi introdurre queste cose e deve essere abbastanza. Secondo me qualcuno non è un bot, ma una persona che ti controlla, che sta dicendo le robe giuste. Probabilmente le risposte a questo questionario sono da qualche altra parte su Wikipedia, per cui. Vediamo, però lo farei quello che se fossi te, eh? Ma lo farò con ma calma. Ma tu sei arrivato all'elite, sei diventato un'elite. Non ha finito il gioco. Non l'ho finito perché mi sono morti i salvataggi sia sull'MSX che sul PC quando era a livello subito sotto quello di Elite. Che è sotto Elite, appunto. Esatto. E quando succedono queste cose che devi ricominciare da zero, dici no. A me è successo con Final Fantasy. So bestemmione, a me due volte per Final Fantasy. Final Fantasy è una bestemmione. Ma poi più volte, in effetti. Con PlayStation 1, maledetta bastarda, e quelle memory card di merda. Cazzo, che non valevano niente. Va bene. Alex, fai una conclusione, fai concludere anche i nostri compari e poi io direi insomma che questa ricca e interessante puntata, perché veramente noi a dispetto di quello che noi stessi ci aspettavamo, a dispetto del caldo, del bambini Satana, perché veramente siamo il finale di stagione di IPN più sofferto della storia di IPN, quindi esatto, dei problemi di collegamento, perché noi ricordiamo anche che Alex praticamente viene da 14 ore di seminario e quindi praticamente non c'è Scania. sono aumentate le ore di seminario, sì, no, ho passato il pomeriggio a parlare a un corso di regia, per cui sono ben provato. Ma allora tu sei andato a fare l'imparatore dei registi, che ovviamente dicono di saperne di più di tutti, l'imparatore esatto. Dei registi di Sganassoni, quindi cioè, ma tu che ne vuoi sapere, poi ti dico. Eppure no, micro corto di Sganassoni, Alex, secondo me dovevamo farlo. Allora, priore io adesso che butto giù una sceneggiatura del priore che finisce a Sganassoni, quindi ma riprendi in mano Alex. Dai, sì, riprendi in mano. Facevo la persona educata, non volevo interrompere con tanta beltà. No, beh, diciamo che le ore tardi sono anche le 11:38, numero magico, e credo che sia il momento di accomiatarci dai nostri teleascoltatori, e vorrei che ognuno di voi lanciasse una piccola provocazione, una piccola riflessione, un piccolo aneddoto, qualcosa, ma dite qualcosa che ha a che vedere con quello di cui abbiamo parlato questa puntata. Comincerei con il nostro caro amico Roberto Bertoni. Eccola là, vedi, non come te Simo che mi lasci per ultimo in altre linee, in altre zone, e faccio bene. Beh, probabilmente sì. Giusto, una provocazione direi che è un po' quello che lanciavo inizialmente, nel senso se secondo voi Elite giocato oggi, oppure uscendo oggi come proposta narrativa, come proposta di gioco, possa essere accattivante. Io qualche dubbio ce l'ho. E come aneddoto vorrei ricordare una volta appunto l'emozione di quando ti avvicinavi a una stella per ricaricare la tua nave, che eri sempre lì che non sapessi se saresti esploso o meno questo c'era anche su Star Raiders 2, Vedi, quel gioco non l'ho giocato purtroppo, quindi mea culpa, però nel senso lì con poche immagini, con pochi frame, con poco di niente riuscì a creare una tensione che a volte era incredibile, quindi ecco, probabilmente quello che ci chiediamo, un grafico ultrarealistica, o diciamo spesso, questo è vero, però probabilmente non serviva quello per portarci verso l'infinito e poi oltre, così cito anche Luigi, era contento. Ok, mi piace questa cosa. Una piccola riflessione dal nostro Vate, Luigi? Se non volete giocare, è comprensibile oggi, non avete tempo di giocare o voglia o piacere a Elite, leggetevi il ciclo diciamo della fondazione di Asimov, quindi fondamentalmente i primi tre romanzi legati al ciclo della fondazione, in cui c'è tantissimo, secondo me, dell'universo che è andato a delineare poi Breben e compagno con Elite. Ed è un modo di recuperare. Purtroppo là, non c'è Pianeta Fak, è assolutamente politically correct quella trilogia, però vale tanto la pena di poter approfondire un modo di intendere le galassie, i rapporti fra le persone, che poi Elite ha cercato di esprimere in maniera videoludica e in modo così magistrale. Perfetto, allora a questo punto passerei la palla a Simone. Allora, ma in realtà io non ho molto altro da aggiungere rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Mi piace ricordare questo gioco, mi piace che fosse anche ricordato magari dai più giovani, o anche approcciato se lo ritengono opportuno, insomma, magari in qualche emulatore o roba del genere, perché c'era tutta l'immaginazione, c'era veramente un mondo gigantesco all'interno di di una capacità hardware che oggi è veramente irrisoria, cioè nel senso a pensarci veramente ci rideremmo sopra. E non solo, ma è anche un bel tributo e una bella immedesimazione nella fantascienza più classica, come ha detto anche Luigi all'inizio, dove lo spazio in realtà non è tutto super tecnologia e sicurezza, ma in realtà è anche precarietà e fatica, no? Incastro, innesco e calcolo e commercio, e chissà se ce la faccio arrivare al prossimo pianeta. E quindi mi piace, per questa precarietà si potrebbe tradurre chissà se ce la faccio ad arrivare a fine del mese. Esatto. No, beh, ma il concetto è chissà se ce la faccio arrivare al prossimo pianeta, ancora peggio, cioè perché in realtà poi alla fine del viaggio chissà se riesco a arrivare alla fine del viaggio, perché comunque tra un iperspazio e l'altro può succedere veramente un po' di tutto, e come è successo a me svariate volte, la mia navicella è come sta lì insieme al siluro di Morgan ancora prima o sarà alla deriva nello spazio, sarà sicuramente piano piano si fermano poi, no? Perché però insomma sai, senza l'inerzia dopo anni finisce, si sa quanti anni, però quanti perché anni. Insomma io uscivo fuori dall'iperspazio, capito? Dopo veloce. Comunque detto questo, grande fascino, grande ammirazione per tutto ciò che come ho cercato di ripetere tantissime volte era l'ingegno e la capacità proprio e l'eleganza anche nella programmazione di questa gente che veramente riusciva a tirar fuori il sangue dalle rape, cioè, e lo faceva penso con fatica, ma lo faceva e quindi ci riusciva, e questo è veramente un merito che va riconosciuto, come abbiamo detto tante volte anche con Stefano Paganini quando si parlava del gioco di scacchi, no, o lo Space Invaders in un K programmato sullo ZX81. Quindi cioè quando le risorse sono ridicole, irrisorie, esce fuori l'ingegno e l'opportunità di superare gli ostacoli, e con quegli ostacoli superati si riesce a creare qualche cosa che ha già intrinseco un fascino che probabilmente oggi non è, cioè nel senso oggi non troviamo più, perché sono veramente pochi gli ostacoli oggi da superare, se non il voler scavalcare tecnicamente gli ostacoli che ti no, ma anche, le palle, sì. Anche scavalcare tecnicamente quello che è stata la tecnica del gioco precedente, magari del concorrente, perché ovviamente se lui ha fatto il gioco con il fotorealismo e le espressioni facciali super cazzute, tu il prossimo gioco dovrai fare sicuramente non da meno, no? E niente, questo è un po' il mio pensiero. Esplorate questi giochi del passato, esplorate Star Rider, ma in maniera particolare Elite, ma anche Elite 2, perché è vero che probabilmente è nato in un contesto diverso, è vero che la grafica era più evoluta, ma già in una macchina da gioco dove ovviamente la grafica era già andata 10 anni avanti, nel senso che comunque probabilmente non era più paragonabile, nel senso non aveva più lo stesso appeal che ci poteva avere. Però è un gioco. Beh, insomma, la versione per PC col texture mapping prima che ci fossero le schede grafiche era effettivamente qualcosa. Sì, sì, però no, io parlo della versione su Amiga, cioè nel senso su Amiga forse aveva meno appeal rispetto alla versione che aveva il primo sul Commodore 64 rispetto agli altri giochi. Insomma. Sì, soprattutto anche perché questo il gioco l'hanno sviluppato sia su Amiga che su PC, e su Amiga era veramente tecnicamente inadeguato, cioè rallentava troppo. Devo dire che è stata una sorta di sospensione dell'incredulità, cioè nel senso arrivi lì e ok, non eri più trasportato nell'universo, stavi guardando un videogioco. Mi ricordo che io ho avuto questa sensazione, motivo per cui io Frontier l'ho giocato veramente veramente poco, perché l'ho trovato veramente frustrante per certi versi e non trasportante. Ok, io comunque ho concluso. Mi piace, che tu riprendi la parola solo per dire che hai finito. Allora riprendo dalla linea per dire che ti passo la linea. Ottimo, ottimo. Ci manca Marco. Beh, sicuramente Elite. Però, scusa, con Marco, tutti posso dire una cosa? Sì, mi giro così, meglio. Diciamo che Elite con tutti quanti i suoi cloni e cloioni vari è comunque un gioco che sicuramente devi giocare quando non devi giocare nient'altro, perché è uno di quei giochi che ti ci devi chiudi dentro un secondo, se no non ci stai, anche perché poi se lo prendi oggi, lo giochi fra un mese, poi non ci capisci niente, cioè uno di quelli che ti devi fare una bella chiusa, devi dire ok, adesso in questo momento dell'anno non ho da giocare un tubo, ma come tutti i giochi del genere, prenderlo e sviscerarlo a dovere. Quindi buona sviscerata, anche perché adesso è estate, non nasce un ciufolo, quindi divertitevi a ripescare queste piccole chicche dal passato. Quindi buona caccia. E siamo sicuri che probabilmente non lo farà nessuno, perché assolutamente no, cioè stanno a giocare a Skyrim adesso. Esatto, c'è troppa distanza perché uno si possa arrivare a un livello di ascetismo tale per cui torna a giocare un gioco del genere. Io penso che se ascolti questa trasmissione la puoi ascoltare per due ragioni: uno, perché sei un vecchiaccio come me e quindi ti piace ricordare le cose perché pensi che quelle prime erano meglio, o due, perché praticamente sei giovane e sei affascinato da quello che c'era prima rispetto a quello che c'è adesso e che già lo conosci. Ah, io, Luigi, se fossi in te adesso entrerei con la stavo massima pensando delle la stessa massime. Cosa. Ma Luigi, arricchisci questo finale. Arricchiscici con una perla di saggezza. Cosa vi aspettate? Perché non so... La mia l'ho detta. No, insomma. Ma la perla di saggezza è che quando un bambino dice che il passato è passato. Dei bambini. Ah, sì. Quando un bambino dice che il passato e non conta, il presente invece c'è, quel bambino non sa. Bravo! Questo, bravo! Hola! Assolutamente d'accordo. Io penso che questo sarà lo slogan della quarta stagione di Archeologia Videoludica, che inizierà a metà settembre 2015. Niente, era una battuta da me, Bertoni. Va bene. Però possiamo dire che la prossima puntata di Archeologia Videoludica, non la prossima, quella dopo, quella che inizia a settembre, sarà registrata in 5.1. Esatto, sarà un vezzo così a cazzo, così tanto per, come al solito noi facciamo queste sperimentazioni tecniche del tutto inutili, perché e anche fallimentari spesso. Ma probabilmente il 90% delle persone non neanche lo sappiamo al visual round, però noi faremo in modo che ogni persona si può sentire da una cassa diversa. Proprio il massimo della tamarraggine. Bene, a questo punto siamo arrivati quasi a 2 ore di trasmissione, che sono molto di più di quello che ci aspettavamo. Io ringrazio i miei co-hoster per questa bellissima trasmissione che mi ha riportato indietro di almeno 20 anni, se non 25 o 30. Per cui saluto i nostri seguenti in diretta streaming, che potremmo chiamarli per nome ma non lo facciamo perché sennò sembrano troppo pochi. Saluto tutte le persone da casa e ci vediamo a brevissimo, e se no buone vacanze. Ci vediamo Ciao. A brevissimo per il puntatone finale di stagione, che sarà proprio a cazzarella. Scazzo puro. Come tutti gli altri. Un saluto a Morgan e allo Smilzo, e insomma lo Smilzo dico soltanto è vero, viva il videoludio artigianale. E viva la sempre. Figa. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Notte, ciao. Buonasera, ci siamo, noi ci siamo, stiamo registrando. Ragazzi, e poi state siamo. Zitti perché iniziamo con la siamo tutti trasmissione. Registriamo? Che bello. E questo è quanto, Alex? E certo, è quanto. Sto cercando di capire se i nostri utenti ascoltano, sentono anche voi oppure no. Anzi no, probabilmente sì. Chiediamolo a qualcuno se ci sentono, se vi sentono. Marco Paglia dice di no, e in realtà io ho fatto un test d'ascolto e noi non ci sentiamo. Osteria, che bello avere queste bellissime notizie proprio nell'intanto. Provate a parlare, signori. È così, siamo qui, proviamo a parlare. Niente, abbiamo il silenzio più assoluto, bellissimo, che bello, questi bellissimi inconvenienti della sì, diretta. Infatti. Ah sì, possiamo raccontare che cosa abbiamo fatto oggi, quindi... Sì, noi possiamo raccontare, lasciando nel vuoto ovviamente i nostri ascoltatori che ci stanno giustamente dicendo: ah, ma com'è che non ci... Già sono in 3 gli ascoltatori. Stiamo parlando da mezz'ora e stiamo raccontando la nostra vita. È questo, quindi potrebbe essere il live più breve della storia di IPN, questo. Il grande epic fail della nostra storia. Eccoci, allora siamo sempre qui aspettando che tu risolva il problema. So che ci riuscirai, so che riuscirai a risolvere. Senti, distruggitore, posso chiederti una cosa? Sì, posso andarmene se vuoi. No. Voglio che tu resti. Ho provato a parlare col silenzio e col vuoto, ma non è stato un bel dialogo, altrettanto, diciamo, infatti. Fra tutti gli sconti che ci saranno quest'estate, che già sono avviati tra Microsoft, Nintendo, Sony, eccetera, voi che cosa consigliate? C'è qualcosa che vale davvero la pena dire? Questo è interessante. Come videogioco? Sì. Come videogioco, vediamo un po'. Sto pensando. Perché mo sono talmente preso da The Last of Us che ti consiglierei quello che hai già giocato. Per cui. No, non ce l'ha PlayStation. Ah, non ce l'ha PlayStation. Io le ho tutte le piattaforme. Soltanto che posso avere le piattaforme, non i giochi. E che cosa ci possiamo? Che cosa ti possiamo consigliare? Che cosa c'è? Ma anche cose roba vecchia. Per esempio, io ho preso Machinarium su PS3, che era una struttura nata nel geometria per PC, punta e clicca. Però mi piaceva questo ambiente, questo universo molto steampunk, i personaggi grotteschi. Non so se avete presente. Ma non è recentissimo. No. Però mi sono fermato. Ecco, Luigi Marone comincia a sentirlo. Poco ma comincia a sentirlo. Ma il problema siamo noi. One, two. Pronti. Ti sentiamo e si cominciamo a sentirci. Scoregge. Ah, dolore atroce. Stacca tutto. Eccolo, mi sono sentito. Eccoci. Finalmente. Beh, comunque l'appuntamento era alle 21:45, quindi abbiamo 15 minuti di prove tecniche. Infatti sto passando. 1, 2, 3. Però adesso forse ci sono. Attenzione, forse ci siamo. Ok. Cominciate a parlare. Ecco, ciao a tutti. Sentite? Secondo me stai creando una singolarità quantica. È molto probabile che stia creando una singolarità quantica. Senti. Quindi io direi che manderemo il CD della puntata a casa di Massimiliano Antigoli e Marco Vaglia. Ok, bene, ok, ci siamo. Sì. Di dove eravamo rimasti? Avevamo dato semplicemente i riferimenti, quindi esatto. Possiamo. Beh. Perfetto.